Fammi mezz'oretta, nulla. Avete ansie pre-esame? Sensate. Ragazzi, i ragazzi di pittura sono usciti di senno. Anzi, le donne di pittura sono uscite di senno. Tanto. E chi c'era ieri sa che oggi tutto sommato si sta meglio. Avreste dovuto essere qua dentro questa mattina. La roba ai confini della realtà. Ora capite perché ho fatto di tutto per riuscire a terminare le lezioni la settimana scorsa? Perché io sapevo che quest'aula sarebbe diventata la continuazione naturale del corso, no? Boscia all'inferno, noi cotti. Uguale. Dovete chiedere cose? Ora o mai più, vero? Beh, ormai più, se avete dubbi mi scrivete, è giusto per fare terrorismo. C'è una cosa invece che vi comunico io. Quanti di voi pensano di venire a giugno a sostenere l'esame? Quanti di voi hanno già studiato tutto? Non vi interrogherò ora, potete dire la verità. Quanti di voi hanno letto anche il secondo testo di Bosch, quello sulle nozze di Cana? E se io dicessi che potremmo anche toglierlo dalla bibliografia ed è giusto l'unico che hai letto, non lo prenderesti? No, così, domanda. Ormai è pronto. No, pensavo di Lara, poi io l'ho che fatta che sta vero, no, ma non vuoi. È vero, ha letto solo quello. Ma amici si stanno persi, non coltivati. No, ma anche per chi lo dà settembre. Per l'universo mondo, se siete d'accordo. Sì, sì. Le vittime sacrificali che l'hanno già letto, lo portino. L'avete già letto? Ma visto che comunque è stato letto, ovvio che non vi interrogo giusto su quello, perché fetente sì, ma non proprio nell'animo, capito? Chi l'ha già studiato lo porti, chi l'ha già letto lo porti. Per quanto concerne il resto del mondo, possiamo toglierlo, c'è già tantissimo da studiare. Okay. Posso dirlo perché è colpa mia, ma quelli che l'hanno già detto c'è tantissimo. Scordatelo. Ma io non l'ho letto, l'ho detto lei, poverino. Scordatelo. Chi l'ha già letto lo porta e verrà valutata una cosa studiata in più. Nemmeno. Nella medievale non può togliere quello di lingua. No. Sì. Ci ho provato. Ma state frequentando un po' troppo il Medio Oriente, miei cari. Perché questi barattamenti posso mettere, togliere, ma. Caffè preso? Siete pronti? È l'ultima tranche di quelle. Siete anche fortunati, mi hanno fatto bere. Oh, la settimana scorsa ci siamo lasciati vedendo tutto il preambolo e in parte anche la tavola centrale del trittico del fieno. Adesso appena arriva. Il perché. Vedete, anche in questo gli esami servono a capire che si apre una porta che cambia la vita. Oh, dicevo appunto, ci siamo lasciati vedendo la tavola centrale del trittico del fieno, no? Avendo fatto tutto quel lungo preambolo sulla danza macabra e sul trionfo della morte. Volevo leggervi un paio di cose che non vi ho letto la settimana scorsa perché ormai eravate, dire sta anche un eufemismo, eravate cotti, lessati, stravolti. Oh, prima di tutto, dicevamo che la danza macabra appare, e anche i trionfi della morte, in concomitanza con le parti esterne o di luoghi particolari, palazzi dell'Inquisizione per esempio, oppure soprattutto la danza macabra all'esterno delle aree cimiteriali. Perché? Oh, ve lo dico in amicizia, preparatevi all'esame, perché all'esame io vi chiederò sempre il perché delle cose. Non serve che voi studiate per leggere e imparare. Io voglio che voi capiate quello che abbiamo fatto. Per cui ogni tanto punitevi da soli, chiedetevi perché. Perché questo è quello che vi verrà chiesto durante l'esame, quasi sempre. Oh, perché è proprio il muro del cimitero ad essere utilizzato? E perlomeno che nesso c'è, tolto il discorso della morte, tra la danza macabra e il cimitero? Ecco, la cosa interessante è che in arabo cimitero si dice mahabir. In ebraico si dice mahaber. Capite che poi mahabir, mahaber, macabra, il passaggio è breve, no? per cui si chiama danza macabra, non perché è impressionante, fa paura, ma perché è una danza fatta di morti. E i morti sono coloro che risiedono all'interno dei cimiteri. Ecco perché. E pensate un po' che macaber significa anche becchino, colui che si prende cura dei morti. E quindi, se ci pensate, potrebbe, ma prendiamola come ipotesi, essere anche letta, la danza tra i vivi e i morti, una sorta di danza realizzata tra chi li seppellisce e chi viene seppellito, no? Il vivo e il morto, il becchino e il defunto. Il becchino è colui anche che andava a dissotterrare le ossa per lasciare spazio alle future bare. E dissotterrava le ossa perché? Perché l'abbiamo detto anche nelle lezioni precedenti, sono sempre argomenti molto felici che io tratto con voi. I cadaveri venivano avvolti semplicemente in un lenzuolo e posti dentro delle casse di legno grezzo. Il legno si deteriorava con grande facilità, per cui nel giro di 50-60 anni avevate solo le ossa vive, cioè le ossa bianche, lo scheletro. E quello scheletro veniva dissotterrato, si fa ancora oggi questa procedura, anche con le nostre bare a tenuta stagna. Dopo un tot di anni si aprono le bare, si raccolgono le ossa, si mettono in cassette più piccole e si lascia lo spazio a chi verrà dopo, cioè ai futuri morti. Quindi il becchino è anche colui che armeggia con queste ossa. E vi prego, ossa, non ossi. Le ossa sono umane, gli ossi sono animali. Degli animali. Oh, di conseguenza, il gioco, probabilmente tra vivi e morti, passa attraverso la figura del becchino, che è chi agisce con queste ossa e che probabilmente proprio per mestiere non è impressionato, cioè abituato. E non è improbabile anche che potessero fare degli scherzi, macabre appunto, no? Vi dicevo come per esempio nell'Asino d'Oro di Apuleio vi sia proprio una scena durante il banchetto di Trimalcione in cui viene fatto entrare per gioco, per scherzo, uno scheletro realizzato completamente in argento. Per cui già nell'antichità c'è questo giocare con la morte per esorcizzarla, per divertimento, per prendersi burla dei vivi sostanzialmente. Per cui dobbiamo tener conto di questo. Altro elemento erano alcune citazioni che volevo leggervi proprio legate al carro del fieno, tratte dalla Bibbia tedesca. Ecco qui. Di cui oggi parliamo vedendo soprattutto la prima parte del trittico. Ah, eccolo qua. Abbiamo visto, no, come nella parte proprio centrale vi sia questo grande carro di fieno e ci siamo dati una motivazione, abbiamo visto perché. Ecco, una delle cose da tenere presente in questa Bibbia tedesca, che abbiamo visto essere anche elemento di elemento letterario nella pittura di Bosch, no? La fonte molte volte che lui va direttamente a consultare. In questa traduzione, presa tra l'altro anche dalla traduzione che noi avremo in volgare italiano realizzato da San Francesco d'Assisi, vi è un passo che dice appunto che l'uomo, ed è Dio che parla naturalmente, l'uomo io l'ho creato innocente perché prenda il posto degli angeli caduti. Se vi ricordate, questo è parallelo al miracolo dei troni, alla visione dei troni di San Francesco di cui abbiamo parlato con i ragazzi di Medievale. Qualcuno forse se lo ricorderà. Oh, E un altro elemento, tratto sempre dalla Bibbia tedesca, dice: o infelici, perché siete così attaccati ai guadagni terreni? Perché sciupate e denigrate i guadagni interiori? Perché sciupate e dimenticate il bene nobile della rassegnazione che voi potreste acquistare senza perdervi nel fieno? E quindi capite che c'è questa sorta di legame diretto con questo elemento legato proprio alla fragilità, alla quasi inutilità del fieno, no? Ciò che è già stato bruciato dalla luce, dal fulgore di Dio. Ma oggi vorrei affrontare con voi le altre due tavole. Se preferite, partiamo dalla più semplice, quella che risolviamo brevemente, che è l'inferno, la tavola di destra. Perché dico che la risolviamo facilmente? Perché è il già visto, è il già affrontato anche negli altri contesti di cui già abbiamo parlato. Il titolo di questa tavola, della tavola di destra, è quello dedicato alle costruzioni infernali. Se vi ricordate, nel Trittico delle Delizie, l'inferno viene detto l'inferno musicale. Questo invece è l'inferno legato appunto alle costruzioni infernali. Perché? Perché si sta proprio costruendo all'interno di questa tavola, si sta edificando. Quella che sembrerebbe essere una sorta di torre di Babele, una torre che venne costruita ma mai terminata, mai ultimata. Vediamo bene la parte superiore. Abbiamo ovviamente, essendo dentro a un inferno legato a Bosch, le scene degli incendi, c'è una città che brucia, o perlomeno una torre che brucia all'orizzonte, anche in questo caso, grilli, mostri che si arrampicano sugli stendardi, sui secchi, inutili per spegnere questi incendi ormai, forche che vengono innalzate, se notate, su una sorta di pavimentazione precaria, su un graticcio vero e proprio, per cui su un assito poco sicuro, all'interno di questa torre che dei muratori stanno proprio edificando. Vedete, abbiamo proprio il secchio di calce con tanto di cazzuola ed è proprio un muratore che sta costruendo questa torre, con degli aiutanti, come sempre, mostruosi, sono demoni. E mi raccomando, vero, demoni, non demoni, perché il demone è uno spirito interiore, è il daimon greco. Il demonio invece è un diavolo, per cui attenzione a dove posizionate accenti e finali, perché hanno proprio significati diversi. Sono mostri, corpi di rospi, e testa che sembra quasi di razza, con volto umano, testa di pesce, ancora gambe legate agli anfibi, e questi uccelli che sembrano proprio un'ossessione in Bosch. Se notate poi anche chi si arrampica per portare dell'altra calce, sembra quasi della farina. Per andare avanti con la costruzione della torre, è un mostro femminile, ha delle mammelle, ha però una schiena da animale, proprio da anfibio, e una lunga coda. Per cui l'idea dell'ibrido è una costante nelle sue scene infernali. E nella parte inferiore abbiamo una novità parziale rispetto a quanto abbiamo visto nelle altre situazioni, che un po' probabilmente richiama anche il viandante che abbiamo lasciato negli sportelli chiusi, ve lo ricordate, no? Che è anche il matto. Abbiamo visto che c'era quel ponticello instabile. Qui abbiamo proprio un ponte, abbiamo una pozza d'acqua marrone, sporca, putrida, dentro la quale vengono immersi dei defunti, poveretti, che vengono anche divorati da dei mostri, gambe umane, e anziché avere il tronco abbiamo una bocca di pesce che ingoia un poveretto, le solite serpi, e qui abbiamo dei cani che stanno aggredendo un uomo. Qui potremmo, se volete, ricordare un po' anche in senso negativo però il mito di Atteone, Diana e Atteone, no? Atteone che va a spiare lei che sta facendo il bagno in un ruscello da dietro i rami. Lei se ne accorge, è una dea assolutamente vendicativa ed è anche una dea abbastanza misogena, non ama molto gli uomini, e fa sbranare Atteone dai cani da caccia che lui aveva con sé, perché lui era uscito a caccia. Diana, tra l'altro, protettrice della caccia, signora dei boschi, in accezione negativa naturalmente, perché qui non è solo sbranato, ma è anche sbranato da dei cani che vivono dentro a questa sorta di palude stigia, no? Dentro alla bolgia infernale, a questo fiume putrido, marcio. Abbiamo degli elementi che ci ricordano ancora la visione di Tandalo, con questo cavaliere che è a cavallo di una mucca e che porta un calice. Anche qui vi prego, il Santo Graal non c'entra niente. C'entra invece la visione appunto di Tandalo. Vi do tutte e tre le accezioni come sempre, Tundalo o Tondalo a seconda della traduzione. Ed è trafitto da una lancia, perché così recita proprio quella visione proprio stralunata, diciamo, di questo scritto di metà del 1100, alla quale, già ve l'ho detto più volte, sicuramente anche Dante Alighieri si è rifatto per il proprio inferno. E dobbiamo anche tener conto del concetto di costruzione infernale, che noi possiamo associare appunto proprio alla Torre di Babele. Bruegel il Vecchio, a posteriori, realizzò tutta una serie di opere, di tavole, dedicate alla Torre di Babele. Anzi, forse sono tra le più famose in assoluto, che magari non sappiamo che sono state dipinte proprio da Bruegel, con una serie di micro elementi che rimandano alla nostra costruzione infernale. L'idea proprio della torre non finita. Vi ricordate l'episodio biblico della Torre di Babele? Gli uomini vennero chiamati a costruire una torre che fosse la più alta del mondo, affinché vi fosse unità. Tutta l'umanità avrebbe potuto riconoscere in quella torre un punto di riferimento, una sorta di faro. Il problema fu che più procedeva la costruzione di questa torre, più gli uomini si inorgoglivano, erano fieri del proprio lavoro, ma non nel senso positivo, nel senso negativo. Erano proprio orgogliosi. E questo li portò, con il passare del tempo, a parlare lingue diverse. Lavoravano allo stesso fabbricato, ma iniziavano a pensare e a parlare in modo diverso, non riuscendo più a capirsi. Questo indusse gli uomini a separarsi e a creare la prima battaglia della storia dell'umanità, la prima guerra, legata proprio a delle incomprensioni linguistiche e fattuali. Da qui anche, no, la terminologia Torre di Babele, si creò una Babele, cioè ognuno parlò non ascoltando gli altri. Parlavano magari la medesima lingua, ma non riuscivano più ad ascoltarsi, creando quindi dissapori e incomprensioni. Questo nesso potrebbe esserci, non ci viene detto in modo diretto, in modo esplicito però, né da Bruegel né da Bosch. Passiamo invece alla prima tavola, che tutto sommato non è così complicata da capire quanto la tavola centrale. La prima tavola è ancora legata al paradiso terrestre, l'abbiamo già visto. Per Però rispetto al paradiso terrestre che noi abbiamo lasciato nel Trittico delle Delizie, abbiamo degli elementi in più. Innanzitutto, se notate, nella parte superiore noi abbiamo effettivamente Dio nel momento della cacciata di Lucifero e del suo seguito dal paradiso, celeste questa volta, non terrestre. Vediamolo magari. Qui sono gli esempi piccoli. Ecco, questo è il Cristo all'interno della grande nube, è proprio un Cristo in trono e tiene la sfera che rappresenta il potere globale, vero? Non la terra, ma questa idea appunto di uniformità, di perfezione. Tenetelo a mente, perché dentro questa tavola abbiamo una discrepanza. Noi abbiamo il Cristo che funge da Dio nel momento della cacciata dal paradiso di Lucifero e del seguito luciferino. Ricordatevi, vero? Lo scontro fu su chi dei due fosse il più bello. Lucifero, colui che porta luce, ebbe l'arroganza di voler superare Dio in bellezza e intelligenza, e per questo venne cacciato e sbattuto proprio dall'alto dei cieli nel profondo della terra. Il seguito di Lucifero è già un seguito ripugnante, proprio come vuole la scrittura. Sono scarafaggi, scorpioni, rospi, ma in mezzo abbiamo anche delle farfalle notturne, abbiamo delle libellule, uccelli di varie tipologie. Scusi, ma Cristo è dentro una nuvola? Sì. Quella è una nuvola. Questa è una grande nuvola d'oro, e se notate è attorniata da tutta una serie, qui ve lo dico io perché si vede poco, sono tutti angeli di fuoco, sono i suoi fedelissimi, sono i cherubini, sono le schiere armate nelle schiere angeliche, vedete, sono tutti angeli messi uno accanto all'altro, uno sopra l'altro, e di fatto spetta ai cherubini cacciare il seguito di Lucifero, che a sua volta era un cherubino dal paradiso. E vengono proprio buttati dalle nubi come se queste nubi fossero delle alte montagne. Scaraventati sia in acqua, sia nel fango, sia sulla terra. Noi abbiamo ancora, se notate, no, queste montagne bizzarre che tante volte già abbiamo visto e mescolate anche come forme a livello morfologico con le fontane che abbiamo lasciato nel Giardino delle Delizie, e subito sotto noi ci ritroviamo ad avere, vediamo l'intero, di nuovo la creazione di Eva dalla schiena di Adamo. Ma prima di parlare di questo vorrei vedeste una tavola di poco precedente del cosiddetto maestro degli angeli ribelli, che ci dà proprio l'immagine della caduta dal cielo operata attraverso, vedete, i cherubini. Questi angeli meravigliosi, policromi, sono cherubini che stanno sbattendo fuori proprio dal paradiso i vari angeli fedeli a Lucifero, e quindi i futuri diavoli. Giusto per farvi capire che a livello iconografico è un'immagine che già esiste, non l'ha inventata Bosch, c'era già. E guardate che questa tavola, oggi conservata al Louvre, è databile intorno alla metà del 1300, sicuramente seconda metà del 1300, è molto probabilmente di scuola veneta. Ricorda in modo molto dettagliato, per tutta una serie di elementi, la pittura che noi abbiamo a Padova, da parte di Altichiero e altri artisti che operarono intorno al circolo, intorno al monastero degli Eremitani. Per cui La costruzione, diciamo che è attigua alla Cappella degli Scrovegni, giusto per capire dov'è questo monastero, dov'era questo monastero. E per quanto riguarda l'ambito fiammingo, Boots, che è uno dei capiscuola, vero, insieme a Van Eyck, Boots realizzò intorno al 1470, quindi un'opera che molto probabilmente Bosch conosceva, a sua volta delle cadute di angeli dal cielo. Ci vengono date, se notate, in una ambientazione che è brulla, spoglia, fatta di legno, fatta di terra, fatta di roccia. Boots si scrive B-O-U-T-S ed è appunto uno dei tre grandi maestri della scuola fiamminga. Abbiamo ovviamente elementi che ricordano le eruzioni vulcaniche, vero, secondo la tradizione classica, abitati i vulcani dai giganti che forgiavano le armi per Zeus, e invece nell'accezione medievale abitati proprio come se fossero delle enormi bocche dell'inferno dai diavoli. Se notate, ad accoglierli precipitando a terra sono coloro che di fatto già costituiscono l'inferno. Nel cadere a terra è come se avessero subito una metamorfosi. Guardate che questo è tipico anche degli inferni trecenteschi italiani. Signorelli, per esempio, ha nel Duomo di Orvieto, ci fa vedere, e insieme a lui anche la bottega proprio degli scalpellini che lavorano per la facciata del Duomo di Orvieto, ci fa vedere un inferno legato alla metamorfosi, cioè si entra umani e più ci si sta dentro più ci si trasforma in demoni, in mostri, in spiriti di quello che si era, ma nell'accezione negativa, proprio trasformandosi a livello fisico. Stavo facendo apposta, secondo me, no? L'anno scorso asfaltavano, oggi non si sa cosa facciano. Vabbè. Subivano questi corpi, subiscono in quegli altorilievi delle metamorfosi terrifiche, avendo testa di orso, zanne di cinghiale, perché sono entrati come anime dannate all'interno dell'inferno e hanno subito una metamorfosi. La metamorfosi in tutto il mondo medievale e tardo medievale è vissuta come una punizione. Non ha nulla di positivo, mai, nel mondo medievale. Il cambiamento di stato non è purificazione, è dannazione. E qui li vedete praticamente che cadono come uomini, vengono divorati da questi mostri che erano uomini a loro volta e poi verranno vomitati o fagocitati attraverso le feci o sputati fuori dallo stomaco di questi mostri, trasformandosi gradualmente in mostri loro stessi. Giusto perché non perdiate l'abitudine del mercoledì pomeriggio pieno di cose terribili. Signorelli, eccolo qui, guardate, per esempio, no? Signorelli, che ovviamente da italiano è molto più soft in tutto questo, ci dà proprio dei cherubini che sono bardati, che sono vestiti come se fossero dei cavalieri in corazza da parata. Le corazze da parata erano molto più eleganti e molto più ricche rispetto alle corazze utilizzate effettivamente in battaglia, vero? Milano era la città specializzata nelle corazze da parata, a dei livelli veramente straordinari. E qui i cherubini vestono proprio quel tipo di armatura, e la cosa interessante è che i diavoli vanno a prendersi queste anime lanciate, scagliate dalla parte superiore del cielo e le trasportano in volo in questa bolgia infernale, dove saranno martoriati, mangiati e subiranno una metamorfosi, si trasformeranno a loro volta in diavoli. Per cui proprio diciamo un modo di pensare comune. Ecco qui. L'uomo che cade e l'ex uomo, se volete, già mostro, al quale sono spuntate le ali, che diciamo cade in mezzo al fuoco insieme a lui e che poi lo prenderà su di sé e lo accompagnerà facendolo planare in mezzo ai dannati. Abbiamo altri esempi anche nella storia della pittura fiamminga, proprio di questa cacciata da parte degli angeli buoni, degli angeli ribelli, che ci vengono già appunto presentati come draghi, come teste di serpente, proprio come mostri. Per cui diciamo in questo Bosch non fa nulla di nuovo, nulla di diverso, anzi è perfettamente in linea con la tradizione. Io volevo che vedeste però prima proprio la creazione di Eva. Vediamo se riusciamo. C'è tutto tranne quello che voglio. Ci arriviamo, eh? No. Non addormentatevi nel frattempo, eh? No. Lo riprendiamo allora dalla tavola intera. Eccoci qua. Portate pazienza, l'immagine non è come vorrei. Quello che volevo farvi notare è che a differenza di quello che abbiamo lasciato nel Trittico delle Delizie, qui Eva non è separata da Adamo, sta proprio uscendo dalla schiena di Adamo, come se venisse effettivamente formata da una costola tolta dalla schiena di Adamo, non dal costato. Ecco che lei si alza in piedi mentre lui è sdraiato. E ad accoglierla e a prenderle un polso, come già avevamo visto nel Trittico delle Delizie, è un Dio Padre anziano vestito da papa, con tanto di tiara coronata sulla testa. Per cui non è un Cristo che rappresenta Dio, questo è proprio un uomo anziano vestito con i paramenti sacrali, ecclesiastici di un papa, che funge proprio da Padre eterno. E un elemento interessantissimo è la parte centrale qui della tavola, che ci fa proprio vedere la scena della seduzione, chiamiamola così. Il momento in cui il serpente dona il frutto dell'albero della sapienza ad Eva, Eva lo tiene proprio in mano, e poi Eva a sua volta lo passerà ad Adamo. La letteratura vuole che questo sia il simbolo, no, del primo atto sessuale. Guardate che non tutta la semiologia biblica è d'accordo su questo, Come già abbiamo detto tante volte, il frutto della conoscenza non necessariamente passa per la sessualità. Fu una scelta di alcuni dottori della Chiesa nel dare questo tipo di lettura. In realtà dovremmo leggerlo proprio come frutto della sapienza, significa diventare come Dio, significa sapere, avere una capacità intellettiva estremamente ampia e sviluppata. Cosa c'è di interessante qui? Questo lo voglio vedere dopo. La cosa interessante qui, a mio avviso, è costituita proprio dal serpente, perché se notate noi non abbiamo il solito boa o il pitone, no? Avvinghiato all'albero semplicemente. Noi qui abbiamo un ibrido, abbiamo un grillo, per metà donna, quest'idea che proprio ovvero si incarna nella mentalità medievale, che sia la donna colei che tenta, colei che va punita, colei che va segregata perché tentatrice nei confronti dell'uomo, la femme fatale seduttrice, peccatrice e quant'altro. Per cui il serpente è femmina, questo il Medioevo non ha dubbi. Per metà donna e per metà serpe, ma non la possiamo proprio chiamare serpente, perché non è solo un serpente, perché ha anche zampe, sembra quasi una lucertola, sembra un drago. Cosa hanno fatto gli altri prima di lui? Abbiamo un'ampia letteratura su questa donna, serpente, drago, mostro. Qualcuno mi sentisse direbbe, beh, non appartiene solo all'antichità, però. Partiamo proprio dalla notte dei tempi, pensate un po'. Quest'idea di uomo serpente, donna serpente, noi l'abbiamo già nel mondo classico. Per quanto riguarda l'Occidente, pensate che addirittura una delle prime, più antiche rappresentazioni di Zeus ci dà Zeus che è per metà uomo e per metà serpente, per metà pitone. È una delle facoltà di Zeus, quello di essere trasformato, no? Pensate quante volte si trasforma per sedurre ninfe o per sedurre donne che a lui piacciono particolarmente. Si trasforma in pioggia dorata, si trasforma in cigno, sì. È un disgraziato, insomma, no? Le donne gli piacciono tantissimo, la povera Era, che è sua moglie, non farà altro che vendicarsi su queste poverette, ma in realtà il disgraziato era il marito. Viene raffigurato proprio in epoca anche arcaica, oltre che classica, sotto queste sembianze. Pensate un po' che queste saranno poi le sembianze, per esempio, che resteranno nel mondo celtico-germanico per il dio Odino. Un dio che può trasformarsi in serpente. E qui il serpente è positivo, perché? Perché è un animale astuto, scaltro, che si sa muovere tra le foglie senza essere scoperto, che sa colpire solo nei momenti indispensabili e necessari. Non uccide mai per il piacere di ammazzare, lo fa solo per difesa. E ricordiamoci anche, perché noi pensiamo sempre a questa metà del mondo, ma ricordiamoci anche che nel mondo orientale il drago è femminile. Il drago non è un'entità maschile, è un'entità femminile ed è un'entità d'acqua. Il drago rappresenta i fiumi cinesi, per esempio. Ha la capacità di volare, ma è comunque legato all'acqua ed è un'entità protettrice, positiva. Viene spesso utilizzato anche, no, come elemento di benaugurante all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno. Il lungo biscione, che di fatto è un drago femminile. Siamo solo noi che abbiamo dato questa lettura così negativa a questo animale. Tra i primi mosaici che noi abbiamo di epoca paleocristiana, l'albero della vita è un albero che può avere delle foglie zoomorfe, con teste d'animale. Guardate che anche questa non è un'invenzione occidentale, questa è un'invenzione araba. Secondo gli arabi, e questo noi lo troviamo nelle miniature, in alcuni antichi tappeti per esempio, l'albero della conoscenza è un albero capace di dar vita a tutto ciò che vive sulla terra, compreso l'uomo. Ed è meraviglioso vedere questi alberi che hanno al posto dei frutti tutti gli animali del creato, tutte le creature del creato, tutti i tipi di frutta, di verdura, ed è il medesimo albero, e il frutto più alto è un uomo, è una testa umana. Mancano solo tutti gli animali che strisciano, perché anche nel mondo persiano, proto-islamico, chiamiamolo così, gli animali che strisciano appartengono ad entità negative, al maligno. esattamente come appunto nella cacciata di Lucifero dal paradiso. Ma sempre volevo, eccolo qui, farvi vedere questo. Noi abbiamo una serie di miniature tra la fine del 1300 e gli inizi del 1400 che ci fanno vedere questo serpente, mostro, tentatore, proprio come se fosse un anfibio, una lucertola soprattutto, no? Per metà lucertola e per metà donna, che più che donare un frutto bisbiglia un segreto, è come se rivelasse il segreto della creazione, e lo fa da donna a donna, da elemento femminile a elemento femminile. Lo bisbiglia ad Eva e poi Eva lo racconterà ad Adamo. Non solo, abbiamo altre rappresentazioni di questo serpente che sempre non offre un frutto, ma suggerisce, bisbiglia l'orecchio. Se notate, anche in questo caso sembra proprio una lucertola capace di sollevarsi, no? Su due zampe, con testa comunque femminile e lunghi capelli biondi, sciolti. E abbiamo visto già tante volte come questi capelli sciolti rappresentino l'intimità. Oh, se avete notato, l'albero ha frutti che non sono mele, assolutamente. Sono quasi sempre delle pesche, ma questo pesche, ma questo già l'abbiamo detto tante volte. Qui torniamo in Italia, 1424, siamo a Firenze, nella chiesa di Santa Maria del Carmine, e Masolino affresca a grandezza naturale, a grandezza reale, Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Il serpente che realizza Masolino, se notate, è uno splendido serpente avvinghiato all'albero, ma a testa femminile, con tanto di capelli biondi, questa volta imboccolati e trattenuti sicuramente da una conciatura assolutamente di moda nella Firenze trecentesca. 1324. La cacciata dall'Eden, dal paradiso terrestre, più famosa del nostro Rinascimento italiano è quella di Masaccio. Siamo nella chiesa del Carmine, per cui a qualche centinaio di metri dal Masolino che abbiamo appena lasciato, siamo nel 1424 e qui la novità consiste nella disperazione di Adamo ed Eva. Non abbiamo più necessità di foglie che vadano a coprire le parti, gli organi genitali, né di lei né di lui. Lei si copre con le proprie mani e sono disperati per l'errore commesso. A cacciarli dalla porta, fuori dai confini, vedete, del paradiso terrestre, è un arcangelo, vestito di rosso perché il testo biblico dice che è un angelo di fuoco che con spada li caccia dal paradiso terrestre. Ed è esattamente poi quello di cui parleremo più tardi che farà anche Bosch nella parte più bassa della tavola che stiamo trattando. Ma quello che volevo vedeste è che Raffaello Sanzio, per esempio, nelle sale vaticane, proprio nella stanza della segnatura, realizza a mosaico la scena proprio della tentazione, e ancora Raffaello, e siamo vero anche qui nella prima metà del 1004, ci dà un'Eva particolarmente sensuale. Se notate, la sua vagina è nascosta, così come abbiamo visto prima anche nelle miniature, da un iris, da un fiore di iris, che rappresenta proprio anche nella pittura fiamminga il fiore della tentazione. Ricorda in modo molto forte, proprio per la sua forma, l'organo genitale femminile. Adamo si è già coperto con le classiche foglie di fico e, se notate, il serpente tentatore è un ibrido, è un grillo, per metà serpente, per metà donna. Ancora una volta, non sta dando il frutto in mano a lei, le sta suggerendo di coglierlo, e in questo caso, considerato il tipo di albero, il frutto è proprio un fico. Il fico, secondo appunto la tradizione iconografica rinascimentale, aperto, ricorda proprio una vagina, ricorda un organo genitale femminile. Ecco perché c'è questo nesso con l'albero della conoscenza. E chiudiamo la carrellata parallela, ricordandoci ovviamente di Michelangelo, la volta della Sistina, dove abbiamo proprio tutta la sequenza della Genesi, no? Che ci viene narrata dalla creazione in poi dell'uomo. Ora, se notate, anche Michelangelo, il più manierato, no? Tra tutti gli artisti del Rinascimento italiano, ci dà in modo molto sensuale lei, Eva, sdraiata ai piedi di Adamo. Considerate l'altezza di testa e membro virile, capite la profondissima sensualità di questa scena, vero? Ed è lui che in un certo senso abbassa il ramo perché Eva possa raccogliere il frutto. Per cui Michelangelo, che ha una visione tutta sua delle sacre scritture, per questo rischierà anche di essere scomunicato, in un certo senso è come se ci dimostrasse un concorso di colpa tra i due. Non è solo lei la colpevole, entrambi sono colpevoli. Ma ancora Michelangelo ci dà un serpente colossale che ci ricorda, se ben guardate, quasi una sirena. Perché quello che ci manca per avere un corpo femminile per intero sono proprio le gambe, perché qui abbiamo ancora conservate le natiche a scaglie, ma di fatto la natica femminile è presente. Per cui è un incrocio, no? Tra un serpente e una sirena. Il canto della sirena, che è lei che ammalia, che porta alla perdizione, ha un nesso, un legame strettissimo, no? Se ci pensate, con questo serpente tentatore. E immediatamente dietro Michelangelo, con questa straordinaria capacità di sintesi che ci dimostra proprio nella volta della Sistina, dietro all'albero, quasi come se fosse una causa e un effetto diretto, immediato, ci dà l'angelo della cacciata. E anche Michelangelo ci dà un angelo di fuoco, un angelo che ha una palla rossa, con la spada puntata quasi alla carotide di Adamo, che cerca di difendersi dall'angelo, ma contemporaneamente con la spada cerca anche di proteggere Eva. Per cui è una scena incredibilmente umana, no? Molto protettiva, molto, molto sensuale, molto seducente. Vediamolo meglio questo serpentone multicolor, perché guardate la differenza dal prima del restauro al dopo restauro. Oggi è così, è arancione praticamente. Per cui anche i colori di questo serpente sono assolutamente di fantasia, a meno che Michelangelo non conoscesse determinati serpenti sudafricani, che sono proprio arancioni, gialli arancioni, ma probabilmente questa più che realtà è proprio fantasia. E tanto giallo, ancora, no, come colore legato proprio al peccato, legato al mondo ebraico, legato proprio all'origine dell'uomo. Dopo Bosch noi avremo una serie di esempi realizzati da Cranach, ma questi li vediamo in rapidità, poco dopo Bosch, 25 anni dopo, dove iniziamo a vedere gradualmente la trasformazione di queste pesche in mele, ma sarà appunto, vi ripeto, avere un passaggio lungo e graduale, ci si impiegherà più di 100 anni. In seno al Rinascimento nel trasformarle in mele rosse, facendo una gran confusione con quello che è il mito di Elena, con il lancio del pomo della discordia sul banchetto dell'Olimpo e l'albero della sapienza. Questo è intorno agli anni 30 del 1500. La cosa divertente, perlomeno agli occhi miei, è che questa Adamo, che ha fattezze rinascimentali, perché è il tipo di barba, di baffi, il taglio degli occhi, conserva questa posizione classica che noi possiamo vedere anche nel sarcofago antico affidato a Giona, che a sua volta la prende proprio dalle fattezze dell'eroe classico nel momento del riposo, preso proprio dal mondo della scultura ellenistica. E ne abbiamo tutta una serie con tutta la vicenda, e sempre vedete questo serpente donna, che in questo caso addirittura offre questa mela pesca. Qui abbiamo il serpentello, sempre che Sibile suggerisce. E così via. Giusto per darvi un'idea che a livello iconografico intorno a questo soggetto possiamo avere tutta una serie di esempi, sia diciamo nella letteratura iconografica italiana che in quella fiamminga. Cosa di particolare invece la scena che viene sotto, cioè la cacciata dal paradiso terrestre? Beh, innanzitutto guardate la porta di questo paradiso terrestre in Bosch. Ne abbiamo visto quella di Masolino, che è proprio una struttura architettonica severa. Noi qui abbiamo una specie di apertura di grotta con, se notate, no, una specie di recinzione in pietra, ma sono sempre le sue pietre, per cui è abbastanza bizzarre con queste forme così anomale. Sopra abbiamo una pera e una zucca o una grande bacca, alla quale questo pettirosso si sta cibando. L'angelo non sta volando a ali, ma è ben piantato a terra e li sta proprio cacciando da una proprietà. Non sono le sue ali ad essere infuocate, ma è la lama della spada ad avere fuoco. Guardate, questo guardate passerà la storia, eh? Dico guardate e non riesco mai a farvi vedere quello che vorrei. Vediamo un po' se ci arriviamo. Uffa, l'abbiamo visto anche poco fa. Anche questo come giardino di redenizie al museo del Prado. Sa che non me lo ricordo, me lo dico subito. Sì, anche questo è al Prado. Allora, vediamo tutto da capo e arriverà questa spada infuocata. Eccola qua. Ecco, se notate, e questa è una cosa un po' così bizzarra, è la lama ad essere con il fuoco sopra, per cui non è l'angelo ad essere di fuoco, ma è la spada che usa per cacciarli ad essere infuocata, come se potesse lanciare a mo' di bacchetta magica una scarica elettrica o una palla di fuoco. E la cosa che a me colpisce è che qui la lettura, a differenza di quanto abbiamo visto anche nel trittico delle delizie, inizia ad avere una lettura moderna. Cioè, noi finora abbiamo sempre letto le situazioni dal basso verso l'alto, esattamente come vuole il modo di leggere medievale. Qui, se ci pensate, leggiamo invece dall'alto verso il basso, perché abbiamo la creazione di Eva nella parte alta. Se vi ricordate, nel trittico delle delizie è a questa altezza, no? Si va al contrario. Nella parte centrale abbiamo la tentazione e nella parte sottostante, proprio come faremmo oggi, dall'alto verso il basso, la cacciata dal paradiso terrestre. Cioè qui abbiamo uno scarto in più verso il Rinascimento, proprio anche per come è strutturata questa tavola, che si legge appunto dall'alto verso il basso. Per cui viene proprio ribaltata la lettura medievale, andando verso una lettura rinascimentale dello spazio all'interno della tavola. E c'è infatti da tenere presente che qui siamo già nel 1500. Perché anche qui, vero, la data, lo sapete, è sempre qualcosa di complicato. Allora, alcuni storici datano questo trittico intorno al 1490, altri tra il 1500 e il 1502. Personalmente lo ritengo più figlio del 500 che del 400, non fosse altro che per questa lettura rovesciata, che non abbiamo in altri contesti. Per cui, se vedete, più andiamo avanti, e direte, beh, basta, avanti, è l'ultima lezione, ma più riusciamo ad avere un codice per capire Bosch. Se noi leggessimo altre quattro tavole, quattro trittici, arriveremo all'ultimo, probabilmente, che avremo tre cose da dirci, perché ripete i propri cliché. Cioè, prende un modulo e lo ripete, lo struttura, ma quello è, il suo inferno, quello è. Il suo paradiso terrestre, quello è. Abbiamo delle piccole varianti. Questo ci aiuta, bontà sua, nel riuscire a capire gli originali, ma soprattutto ad avere una lettura sempre più approfondita nelle sue opere, cosa non semplice. Vediamo, ce la fate? O preferite una piccola pausa? Ditemi voi. Pausa. Fino a che ora facciamo? Fino alla morte. No, facciamo fino dove ce la fate, 5:30. Perché c'è una performance. A che ora? Penso alle 5 incomincia. Dove? All'Accademia c'è scritto, non si sa dove. Qua sopra? Ah, per cui chi non muore qui va a morire piano di sopra a cucinarsi. Allora poi ne teniamo conto, per cui magari pausa di 10 minuti, va bene? Così potete bere. Non solo voi. Perché vuole punirsi con uno scritto, non dovendo fare l'esame? Me lo racconti? Ma perché non mi sta punendo? Perché così sto premiando. Si sta premiando. Col flagello. Lei chi è andare a casa? Certo. Ci ha detto come in Cina il drago è solo anche sì. Quello bella Michele sì perché ha fatto due volte di restauro, due. L'ultimo restauro fatto 7 anni fa ha portato a vedere dei colori che sono tanto bella, tanto forti. Appena è stata restaurata, è bella, qualcuno ha detto, oddio, cos'è questa cosa? È terribile. invece no, lui è dipinto proprio così, con colori molto brillanti, quasi alti. Ah, quello è giusto. È giusto, adesso è giusto. Prima era sporco, il fumo delle candele, dell'incenso. Poi qualcuno nel 600 aveva anche aggiunto tutta una serie di cose, aveva coperto tutti i sederi. Erano stati coperti, c'erano stati messi dei pantaloni, delle cose terribili. Ma come stanno? Prima è la bella originale, sì, sono proprio così brillanti. Sì. È bella Bosch. Sì. Però se su quale paese ci sono più i lavori? Allora, moltissimi lavori noi li troviamo a Madrid. Sì, a Milano del Prado, in Spagna, perché la corte spagnola ama molto questo modo di fare pittura, moltissimo. E poi l'opera che vedremo adesso, le quattro tavole che vediamo adesso, sono Venezia. Anche Venezia, la galleria dell'Accademia delle Arti, ha una serie di cose. E poi c'è anche la provincia d'Olanda, Amsterdam, anche ma soprattutto la Spagna, perché proprio la famiglia reale spagnola ha amato collezionare. Si possono proprio vedere al Prado. Prado, ma ci state? Il museo della Spagna, a Madrid. No, non è Prato, è Prado. Esatto. Non era così quando parlavo. Tre. E poi per l'esame a giugno devo firmare oggi? No, niente. Vengo pure. Vieni direttamente. Io vediamo oggi, ma sono direttamente lunedì mattina. Metto due fogli, uno per il triennio e uno per il biennio. Ma il biennio io preferirei il secondo. Venite il 16, però sicuramente l'esame lo facciamo il 17. Mi mostra il suo quadro. Ma ce la fate con questo caldo? Perché seguire e scrivere con questo caldo è dura, eh? Perché io posso sventolarmi. Tutti io ringrazio il registratore. A casa ne ascolto tutto. Sì, esatto, mi tirate in faccia. Però professoressa, per la figura mitologica dell'Echidna era comunque una donna mezza serpente. Ed era molto cattiva in realtà. Eh sì. Cioè, ma anche quella è stata una metamorfosi, non è stata una trasformazione. Un po' come Aracne, anche Aracne è stata. Non mi ricordo, forse il nome è nato già così. Non credo proprio. Sì, così come Aracne. Sì, il nome è poi quello che dà la nomenclatura scientifica ai ragni, ai serpenti, sì. Ma loro sono donne che poi vengono trasformate in quell'animale per punizione, sì. Sempre. Aracne sì, no. Pure. Adesso il mito non ce l'ho presente, però sicuramente è andata così. E ovviamente lei da viva aveva già tutta una serie di caratteristiche positive che appartengono al serpente. La diffidenza, la prudenza, la saggezza. E chi ne era qualcosa legato ai figli? Perché le venivano sì, sì, qualcosa così. Tanto che poi si cita spesso, no, questo mito per Medea anche, una specie di anti-Medea. Sì, so che lei era un po' come le sirene, attraeva i cavalieri. Dimmi. Adesso vediamo se riesco ad avere fiato per attaccare due fogli sulla porta, li attacco già oggi, teniamo divisi triennio da biennio, rispondete all'appello il 16, ma sicuramente venite il 17 o addirittura il 18 a fare esame, vediamo quanti sarete, perché io con voi voglio avere tempo, voglio fare le cose con calma, perché mentre con il triennio ho fatto uno scritto per la parte generale, quindi ho già un voto e quindi si interroga davanti alla commissione, giustamente, solo per la parte monografica, con voi voglio avere il tempo per poter fare le cose fatte bene, quindi vi tengo separati da loro. Perché io ho tutto il tuo tempo e fino all'esame non sono come fosse stato allora volevo sapere. Adesso vediamo, se ho un foglio bianco lo facciamo subito. Nel senso, fisici e lì cosa? Se bisogna portarli proprio, perché alcuni di questi vogliono vedere. Se li avete meglio con voi, ma non è che siano vitali. Perché io li ho presi in biblioteca, li ho restituiti, quindi nel caso in questi giorni andavo a prenderli. E questo abbiamo l'immagine. Se può aiutarvi è un aiuto vostro, volentieri, altrimenti non è necessario. Professoressa, il libro di dell'icona, quello piccolino? Sì. Ce l'ha, lo vuole, perché io una copia non so se fotocopiata? Sì, te la pago. Glielo posso dare? Sì, allora. Te la pago. No, no, non l'ho pagata. Sì, mia madre per fare le prove di fotocopiata. Sei sicura? Sì, sì, ho tre copie a casa. Perché se io la pago, voi l'avete pagata, la pago anch'io. No, pagata io intanto. Ho la mamma, è che penso che tutti ce l'abbiano. Mia madre me ne ha fatto tre copie. C'era proprio bene. E quindi ho tre copie dell'icona. Da me? Tu sei già? No, c'ho il computer. Non è quella che hai dato il computer? Sì. Allora, quando è con la regia, quando andiamo a firmare, vediamo se ho dei fogli bianchi, così li mettiamo fuori. No, non può essere. Tanto quel giorno sono io il paziente riesco più che se faccio vedere perché ritorno a fare un po' imbarazzante per tutti, che io ho decisione. Guarda, si possono fare in più. Guarda che lì c'è. Vergogna. No, comunque. Comunque portalo a. Se lo trovo senza fare. Faccio 8 della scuola. Della scuola. Sì, alla fine per copie. Portamela per la mangiata, poi ci vediamo. Sì, ma oggi ci sono stati gli esami di quella via. C'hai bloccato? No, c'hai... Sì, lei era lì tutto giovedì, dove lei andava. Ah, giovedì? Per il biennio, e il mercoledì per il biennio. Sì, riceveva le stesse. Anche la giudizio. Però io avrò già tutti 800 libri più l'autocicato. Non stare qua, lo farò vedere. Ah, ok. Ma non si deve andare anche alle 10 secondo le puntuali quello che vuoi. O farà passare prima quelli che deve essere. Io spero che Copia e incolla le tue volte. No, mi sono portato di sé così vuoi. Ma niente, che per i vari artisti li vuoi continuare meglio. Per i vari artisti. Non li prendo tutti, però. No, ti metto tutti i miei. Ne prendo un po'. Voilà, abbiamo fatto prima la stessa cosa, solo che lei se le siete io le ho lasciate così. Copiamo e incollavo dei vari siti. Li sistemavo in senso a meno mettere tutti nello stesso carattere, cioè, però lasciavo come erano scritti, tengo lo spazio tra una cosa e l'altra, non voglio capire che era quello di un sintetizzatore. Io vedo che sono tutti se li sistemavo, se li sistemavo in italiano leggibile. Allora voglio suoi. Ma tu non ce l'hai? Non ho neanche PDF. È uno stampato. Ma mi ha formato il computer. Comunque si trovasse. Io ho tutti i miei 15 che li vedo. Se c'è qualcosa che mi viene. Sicuro perché tanto non ce l'hai. Ne comunicavamo scoperto prendere il sito era quello che avevamo le stesse idee che avevo. Perché quindi le cose solo di alcune trovavi spiegazioni in terza persona dell'artista e più delle volte erano molte artisti io avevo trovato interviste, cioè quando metti il nome ti arriva tutto il sito dove ci sono interviste fatte da artisti. Esatto, quindi più delle cose che io ho messo sono interviste dove c'è lei che parla, però alla fine io alla fine quando io inizio a parlare da Goldie con tutti i suoi pensieri è meglio di questi scrivere c'è lei che ti sono andata a parlare. Io non ho parlato con lei. A lei gliela tenuta perché l'ha fatto una bella ma con la bella. Io le ho stampate tutti i video pensati, però glielo portati da fare lei. Io cioè se io ne ho tipo metà dei cuori e metà io così che ha detto lei. Ma tanto lei mi ha perso tutto il video. Non ti chiede di vedere, però quando tu ti siedi lì, se ti prendi la cioè è tutta la foto, anche il cuore, se lì siedi, ti siedi e poi ci libri e ti qui, è già visivamente lì. Sì, quindi se tu le porci il clima non potrà mai sapere se è stato lì, quindi chi e vuoi lei la vista spalla, io ormai devo guardare più di tutto quello che la faccio stessa. Su foglia 4 non avete studiato? No, io sono guardato. No, io non ho neanche guardato. No, però la web, quindi al computer scrivi su foglia 4. E glielo metti davanti, quelle magari la guarda e non ti chiederà mai l'artista. Tipo a me alla fine ha chiesto ma no, in realtà non mi ha chiesto mai niente, già me mi fa parlare. Sì, mi aveva detto inizia con la mia cosa, avevo fatto in angolo, che ero da sola attaccata a Roma, e mi ero attaccata da sola, io ho fatto una spiegazione alla mia idea, perché questi due sono usciti fra di loro, bene, io ho vinto, e mi guardavo, guardando, poi ho dato quello che gli occhi, io ho capito, non vedo nulla, e fa sì, parla, parliamo della tua. Bene, ora, cioè, quindi ora, io lo guardavo così, e era lì facile, e infatti guarda i libri, vedo qui i libri, vuoi dire qualcosa? Anche lui, e inizia a dire, io da mio, da me, voglio parlare, voglio parlare, i suoi libri, non ho fatto andare, alle tre, adesso faccio un attimo di paura, col tempo, ma io lei no, lei non lo so, però no, lei conta che ti tiene un quarto d'ora più, poco più a testa, quindi un'ora più di qua, se proprio sei fenomenale, 5 passi più. Un quarto d'ora non è un vuol dire che allora ne passa un quarto? Sì, ma noi siamo passati alle 3. Invece che inizia alle 10. 11, 12. 13, 14, 15, cioè vuol dire che alle 3, dalle 10 è iniziato, alle 3 ne ha passate le 3. Ha iniziato dopo le 10, non sempre allora ne passa 4. Dipende se fai una fiducia di più. Poi contatti mi hanno portato a trovare l'altro. Tu? Prima volevo iniziare a studiare... Forse c'era andata peggio, se ti ricordi. Ma voi? No, voi no, perché nel primo semestre, ma gli ultimi 15 giorni l'anno scorso ci hanno fatto morire. Abbiamo seguito di è stato d'inverno, si è tornato d'inverno. Inverno, sì. Siamo stati a Milano, ti ricordi? Quest'anno alla fine poi visite, non sono fatte. È stato impossibile organizzare. Siete sempre di più. Troppi. Più ci sono gli infiltrati. Più ci sono gli infiltrati. E ne vanno per ora anche loro. Gli autopunitori. Gli autopunitori. I punitori di se stessi. Beh, il corso è perfetto, no? Questo sì, però. Per chi deve punirsi di qualcosa. Lei non pensava di essere così calzante. Possiamo riprendere, ce la fate? Che domanda sciocca, dite voi. No, visto che il taglio è questo? Vedete gli anni di servizio palermitani mi hanno insegnato che un ventaglio cambia la vita e quindi ne ho comprati agli anni uno stock, ne ho di vari tipi, ma questi sono proprio fatti, te li fanno per la strada, scegli il soggetto, ti traforano il legno, eccezionale, basta, no, è per la nostalgia. Questa è la tavola con la quale io vorrei chiudere il corso, ma non preoccupatevi perché ne ho anche una di riserva. Ce n'è anche un'altra, finissimo troppo presto. C'è qualcuno che ce l'ho, vado via subito. E volutamente il corso dovrebbe chiudersi su questa perché, beh, perché è nostra. Nostra nel senso che appartiene alla galleria, alle gallerie dell'Accademia di Venezia, E quindi è in Italia ed è, diciamo così, in un museo che appartiene ad un'accademia statale, quindi mi piaceva chiudere il corso proprio con queste quattro tavole, anche perché di tutto quello che abbiamo visto è la meno pesante, è la meno devastante, e quindi magari si può chiudere con qualche cosa di più sereno. Non illudetevi però, perché appunto c'è quella di riserva anche. Sono quattro tavole, volutamente non lo chiamo quadrittico, non sappiamo se queste quattro tavole vennero acquistate per Venezia e guardate subito, praticamente ancora ad olio fresco, diciamo così, per un altare o per un interno di sacrestia o per altri motivi. Sappiamo che la famiglia Grimani, o Grimiani, non fa differenza, chi tra voi fa scenografia, questo nome dovrebbe suonare bene nella memoria, una famiglia di mercanti veneziani, ricchérrima, non ricchissima, ricchérrima, che investì parte del proprio denaro, pensate un po', nelle sale sceniche, nelle sale di spettacolo. Sono i primi, tra i primi ad attrezzare un salone del proprio palazzo, metterlo a disposizione di un impresario, prendere dei biglietti a pagamento, proprio un ingresso a pagamento, e offrire degli spettacoli teatrali al pubblico di Venezia. Per cui mercanti eccezionali, riuscirono a fare soldi anche vendendo sassi. Un casato che ancora oggi esiste a Venezia e che ha, nel corso dei secoli, acquistato e donato alla città di Venezia capolavori di inestimabile meraviglia, tra cui queste quattro tavole di Hieronymus Bosch. Una famiglia, in quanto famiglia mercantile veneziana, che ha diretti contatti con le Fiandre. Ecco come arriva Bosch a Venezia. E se vi ricordate, quando ho accennato alla sua biografia, beh, sapete, io non amo raccontare le biografie, salvo quelle situazioni indispensabili per leggere le opere, vi dicevo che molto probabilmente Bosch si recò, fece un proprio viaggio in Italia, almeno uno, e tra le città toccate vi fu anche Venezia. Molto probabilmente, un po' seguendo l'iter mercantile dei tessuti, per cui Venezia, Firenze, Roma e Napoli, e un po' sicuramente anche seguendo quegli appoggi della confraternita alla quale faceva parte, no? Un po' come i viaggi di Mozart si appoggiarono alla massoneria, perché appunto ne faceva parte. Cos'ha di particolare questo gruppo di tavole che sappiamo essere legate tra di loro, concatenate tra di loro? Il fatto di darci la caduta degli angeli dal cielo, per cui ritorna un po' a quello che ci siamo appena detti con il pannello di sinistra del trittico del fieno, l'inferno, e quindi ci torna il pannello di destra di più trittici, e novità, ci dà anche l'aldilà, che non chiama paradiso, lo chiama proprio al di là. La cosa interessante, qui ci ricolleghiamo, se volete, anche a tutto il discorso che ci siamo fatti sulla fontana esagonale, ottagonale, no? Nel trionfo della morte e anche nei vari trionfi, ci ritroviamo ad avere non solo la fontana, ma anche una sorta di giardino, che non è l'Eden, è una sorta di anticamera per il paradiso. E ovviamente è un luogo dove non si sta male, non si sta benissimo, ma non si sta nemmeno male, perché non è il giardino del paradiso terrestre, è un luogo in cui appunto ci si prepara per salire. La salita, la salita è paurosamente contemporanea, se ci pensate, no? Pensate anche a tutta la letteratura legata allo stato del coma, per esempio, no? All'idea di poter vedere che cosa c'è di là dopo la morte. Noi abbiamo tutta una letteratura assolutamente contemporanea in questi ultimi 25 anni, scritta da persone che hanno provato il coma e che poi sono ritornate ad una lucidità, no? E hanno lasciato le proprie testimonianze dicendo che cosa hanno visto, che cosa hanno provato. Questo tunnel nero che pare esserci, no? In questa sorta di passaggio, tralasciando sempre un dettaglio, e qui più vado avanti negli anni più me ne convinco, che non sono persone morte, sono persone in uno stato latente, e quindi il cervello rielabora, ammortizza, cerca anche di esorcizzare la morte, creandosi delle vie parallele già narrate e già viste. C'è poco da fare, siamo delle macchine che assorbono e rielaborano, anche inconsapevolmente. Bosch ci dà questo tunnel, il tunnel proprio del passaggio. È un occhio di luce. Se ci pensate, ricorda in modo straordinario la parte centrale della tavola dei sette peccati capitali, no? Questo occhio centrale con il Cristo risorto. Ce lo dà nella parte alta della tavola e ce lo dà proprio con una forte strombatura prospettica. Ci fa capire che è profondissimo, lunghissimo. Mi scusi, mi sono entrata in ritardo, quindi queste Bosch? Sì. Ed è, diciamo? Sono quattro tavole legate proprio all'aldilà, visioni dell'aldilà. Anche qui, prima di analizzarlo, teniamo conto di un paio di cose. Il concetto di mondo che avevano all'epoca, vero? L'America viene scoperta mentre Bosch dipinge queste tavole. La scoperta dell'America non è che ci interessa in modo particolare in quanto scoperta delle Americhe, ci interessa in quanto dimostrazione scientifica della sfericità della Terra. Questo ci interessa per Bosch. Noi abbiamo però una letteratura iconografica che ci arriva sia da Oriente che da Occidente, legata, pensate un po', al concetto di uovo cosmico, di un universo fatto a forma di uovo o a forma di disco. Ne abbiamo già parlato, no? Se vi ricordate, proprio per questa sfera primordiale del terzo giorno della Genesi, all'interno del quale si andrebbero a condensare i venti, la calotta celeste, le stelle, gli astri, la Terra, e il nucleo centrale della Terra, pensate un po', sarebbe una sorta di ovaio pieno di uova, e le uova sarebbero tutto ciò che potenzialmente può essere. Le uova sono un po' l'on, l'essente, sarebbero, se volete usare un termine assolutamente contemporaneo, cellule staminali. Voi immaginatevi una cellula staminale fatta a uovo, è un uovo. Questo ci aiuterebbe anche a capire tutte quelle situazioni di uova, vi ricordate, che abbiamo visto nel Giardino delle Delizie, no? Di pesci squartati, di uomini squartati, e in questo squarcio dello stomaco vedevamo delle uova di pesce solitamente. Questo un pochino ci aiuterebbe. Ricordatevi che la forma dell'uovo, che ancora oggi nel mondo slavo rappresenta proprio la resurrezione, pensate a tutte le uova create dall'orafo Fabergé per la famiglia imperiale, per esempio, no? Sono dei doni propiziatori, perché rappresenta proprio la resurrezione, il ritornare a nascere. Da una parte. Dall'altra ci ricorda che l'idea che la Terra fosse un disco era una delle tante teorie, non l'unica teoria. E questo ci aiuterebbe nel fine 400 a capire tutta una serie di immagini legate a questi uomini che nascono da uova, che è sì un mito legato anche a Leda, per esempio, no? Il mito di Leda, per cui Zeus che si fa cigno perché la ama da impazzire, ma ciò che nasce sono uomini dentro a gusci d'uovo. Però ci parla anche di altre teorie che nel 400 erano ancora presenti. Questa è una di quelle. E quindi questa idea di cerchio di luce dentro al quale tutto il creato potenzialmente abitava, stava. Un altro elemento che abbiamo visto ieri con chi fa medievale, ma che calza perfettamente con quello che stiamo vedendo, ed è un'icona di Andrei Rublev, si scrive Rublev, che è uno dei tre grandi, grandissimi monaci, creatori, loro direbbero scrittori di icone, slave. Siamo agli inizi del 1400, per cui siamo in linea con il nostro corso. Rublev realizza quest'icona mescolando in un certo senso due momenti della narrazione evangelica. Il momento della trasfigurazione, che è proprio un episodio che ci viene narrato, in cui Cristo crea un momento, sceglie un momento di meditazione su un monte, portando con sé tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e Pietro, Giacomo e Giovanni vogliono costruire tre tende, una per Mosè, una per Cristo e una per Elia. Cristo ha un momento di meditazione talmente mistico da trasfigurarsi, cambia sembianze, diventa una fiamma, diventa una bandiera di luce. Contemporaneamente, e questo vedete ci motiva, quindi questi tre uomini scagliati a terra, sono i tre, appunto, apostoli che restano folgorati da tanta luce. E qui abbiamo Mosè ed Elia, il contrario, scusate, Mosè in bianco e Elia in rosso, e il Cristo in bianco. Ma questa è comunque, vedete, una mandorla che di fatto è un cerchio concentrico, è un arcobaleno medievale, ma è anche una sorta, se notate, di controtunnel. Guardate un po', qui andiamo dal nero al grigio al bianco, qui andiamo dal bianco all'azzurro al nero, una sorta di cannocchiale a rovescio. Guardate che questa è una delle icone insieme ai tre angeli, sempre dipinto da Rublev, tra le più famose del mondo. Con questo non voglio dire che Bosch ne avesse conoscenza, ma non significa neanche che Bosch non ne avesse conoscenza. Queste sono tavole che viaggiano con grande facilità, anche perché non è un'opera unica, è un modello che viene ripetuto più volte, e spesso questi oggetti venivano anche utilizzati come oggetti di preghiera da viaggio. Venivano realizzate doppie, incernierate, chiuse come se fossero un libro e messe nelle bisacce, erano proprio icone da viaggio, un po' come anche i micro altari da viaggio per poter celebrare messa ovunque ci si trovasse. E questo è interessante perché vuol dire che c'è un'idea dell'aldilà comune sia a Bosch che a quella che è la tradizione. Quindi noi potremmo, e questo ve lo dico proprio da medievalista, leggere questo tunnel come se fosse una lettura contemporanea dell'arcobaleno medievale. L'arcobaleno, se vi ricordate, era anche il luogo su cui Cristo del giudizio universale poteva sedere. Era l'empireo, era ciò che stava fuori dalla terra e non era mai policromo come lo conosciamo noi oggi, no? Aveva sempre dei colori ben precisi di cui abbiamo già parlato più volte. Uno di questi colori, che è un non colore, era proprio il nero, bianco e nero insieme a giallo e rosso solitamente, o giallo e blu, dipende da dove ci troviamo a livello proprio geografico. Per cui dobbiamo tener conto anche di questo. E dovremmo appunto vedere adesso le singole parti. Partiamo dalla più facile in assoluto, caduta e inferno. La caduta è interessante perché? Perché mentre finora noi abbiamo visto un cielo azzurro dal quale questi luciferini vengono vomitati, vengono sbattuti a terra, in questa tavola noi abbiamo l'ultima fase della caduta, siamo già a terra, si sta sprofondando sotto terra, vedete? Sono uomini che precipitano con questi demoni che cercano di prenderseli per trascinarli, come già abbiamo visto poco fa e come abbiamo visto anche in Signorelli. Questi spiragli di luce che vediamo sembrano quasi, pensate un po', anzitempo, visto che le pile non esistevano, perlomeno in questa parte del mondo, sembrano quasi delle luci a mo' di caschi di minatori collocate sulle fronti di questi diavoli, che è come se si facessero luce dentro le tenebre dell'inferno. Sono tutte collegate alla fronte di questi diavoli. Pensate un po'. Cioè, l'idea del casco da minatore con la luce, noi possiamo averla solo se abbiamo una fonte energetica autonoma. Probabilmente a fantasia. Guardate che è incredibile a volte che cosa possa fare la fantasia di un artista o di un letterato. Pensate a tutta la letteratura di Verne, per esempio, no? Sul viaggio al centro della Terra, la costruzione del primo sottomarino, no? Il Nautilus, 150 anni prima che un vero sottomarino potesse esserci, esistere, viaggio sulla Luna. Se noi andiamo a rileggere quei romanzi, in modo incredibile troveremo tutta una serie di elementi assolutamente realizzatisi poi nei nostri giorni. Per cui è incredibile. E poi tenete conto che sono uomini che vivono in un mondo fatto di candele. La candela legata alla fronte con un piccolo specchio che faceva proprio da scudo per i capelli e per ampliare la luce, era un elemento che veniva utilizzato proprio dai minatori. Ancora oggi, se si usasse qualcosa di simile, molti di loro potrebbero vivere, perché là dove vi è il grisù ci si renderebbe subito conto, o l'assenza di ossigeno, perché le candele si spengono. Per cui non era un elemento così desueto. Certo, è incredibile vederlo dipinto all'inferno, questo sì, ma dà l'idea comunque, no? L'inferno di grotta, di miniera. Quest'altro pannello, quest'altra tavola, altro non è se non il canonico inferno, no? Con l'incendio, la rocca e questo fiume ripugnante, questo fiume dentro il quale i dannati affogano, muoiono. Una sorta di scena quasi consolatoria, se vogliamo chiamarla consolatoria, l'abbiamo proprio in primo piano, dove abbiamo una sorta di diavolo, adesso lo vediamo bene, che non capiamo se si stia appropriando di quest'anima disperata o quasi se la stia consolando. Certo, vero, se è una consolazione è una grama consolazione, perché sicuramente dice non ti preoccupare, sarà così per l'eternità. Ecco, guardate quanto siamo andati in là nel concetto di mostro, di ibrido. Questo di fatto è un ibrido tra un rospo, un pesce gatto, perché è un pesce che vive nei fossi, in mezzo al fango, e ali di un qualche cosa che non si sa che cosa sia, perché non è certo un pipistrello, vero? Sono delle ali abbozzate di qualche cosa che non c'è, non esiste. A meno che non parliamo di alcune farfalle notturne, particolarmente brutte, tra l'altro. E sempre questo verdognolo, questo verde rospo, verde marcio, che costantemente gravita nei suoi inferni. La parte invece più interessante, nuova per certi aspetti, è la parte legata proprio alla parte positiva di queste quattro tavole. Questo giardino, che possiamo quasi considerarlo il giardino dell'attesa, dove abbiamo uomini che si stanno così preparando da dietro i cespugli, sembrano in preghiera, e là dove abbiamo lasciato il diavolo che si appropria, che consola l'anima del dannato, nella parte positiva abbiamo un angelo invece che consiglia proprio di alzarsi, di muoversi, di incamminarsi. E un altro angelo, insieme a queste anime pie, guarda verso l'alto. Abbiamo degli uccelli, ancora una volta, questi animali che costantemente sono presenti. Ed è come se queste persone stessero, queste anime, stessero facendo un viaggio dentro al bosco. L'apice sia una fontana quadrangolare, con la parte proprio della coppa circolare, dove uccelli positivi, variopinti, si stanno abbeverando. C'è un fiume meravigliosamente limpido, che potrebbe essere uno dei quattro fiumi della Gerusalemme celeste. E questo viaggio, che parte da questa sorta di luogo felice e ameno, prosegue nella tavola accanto, dove gli angeli, anziché spingere gli uomini verso la terra, li spingono e li accompagnano verso l'alto, in un andamento quasi a spirale, a S, vedete? Una serpentina proprio che si muove per arrivare fin dentro a questo tunnel di luce, alla cui estremità non capiamo se c'è un santo ad attenderli oppure se questa è un'anima che sta proprio per entrare nella luce infinita del divino. Interessantissima questa fontana a pianta quadrangolare con coppa circolare, il quadrato con la ciotola, la forma quadrangolare con il cerchio, un simbolo che si perde nella notte dei tempi per quella che è l'unione, la fusione tra Dio e l'uomo. La cupola bizantina è strutturata in questo modo, no? E qui mi ripeto per la 100.000.000esima volta: il quadrato, che è la forma statica, che quasi sempre rappresenta l'uomo, la forma finita, con invece la forma circolare, che rappresenta l'infinito, l'atemporale, Dio. La cosa splendida è che queste due forme, così come già ci ha insegnato l'arte normanna, arabo-normanna, si fondano insieme nel creare una fontana, fonte di eterna vita, di rinascita, di eterna giovinezza. Come se per salire in paradiso ci si dovesse prima abbeverare ad un'acqua pura, purificare, rilavare, una sorta di secondo battesimo dopo la morte, per essere mondi, puliti, per entrare in paradiso. Infatti, a differenza di tutta la tradizione medievale, che ci dà sempre i dannati nudi e i beati vestiti, qui noi abbiamo anime nude che entrano in paradiso. Anche questo per me è un elemento legato alla modernità, legato al rinascimento, all'elemento umanista. Mai nel Medioevo troveremmo un'anima nuda pronta per entrare in paradiso. Sono tutti rigorosamente vestiti. Anzi, molte volte riconosciamo il beato dal dannato proprio perché il beato è vestito e il dannato no. La nudità è qualcosa che va respinta, appartiene al diavolo, non c'è proprietà del proprio corpo. Sarà il Rinascimento a ridonare questa dignità che apparteneva al mondo classico, no? Pensate a tutte le veneri che torneremo a vedere con il Rinascimento. Cioè la nudità non fa altro nel Rinascimento che sottolineare la perfezione dell'uomo, la bellezza infinita del corpo umano, non più visto come un elemento di peccato, ma visto invece proprio come un elemento di magnificenza. Ritornando addirittura, pensate all'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, a studiarlo inserito nella proporzione aurea, per cui dentro a quella regola che appartiene alla natura, alla gemmazione delle foglie, alle volute delle chiocciole, alla gemmazione delle felci e quant'altro. Per cui è l'elemento naturale per eccellenza, la proporzione perfetta per eccellenza. Quindi questa nudità, così come la lettura che abbiamo appena lasciato dall'alto verso il basso, nel giardino terrestre, nel paradiso terrestre, ci fa capire che Bosch, pur restando legato a tutta una serie di elementi medievali, è comunque andato avanti verso il Rinascimento, dentro il Rinascimento. Vedete, sono tutti angeli, ovviamente gli angeli sono vestiti, vero? Nel dubbio se siano maschi o femmine si vestono e il dubbio non sussiste. Ma accompagnano proprio anime nude verso l'aldilà. Cerchio di luce. E se notate proprio al limitare di questo tunnel abbiamo una figura. Anche qui la critica è divisa, c'è chi dice è una persona in attesa, c'è chi dice una persona che sta entrando. Non si vede, non si sa. Cioè, anche qui usiamo il buon senso, no? C'è una figura al limitare del tunnel, punto. Quindi non si vede neanche se sia di spalle o... Probabilmente di spalle, ma tieni conto che sarà grande un centimetro. Okay. In basso invece si va sulla nostra destra accanto a quella figura. Qui? No, proprio accanto alla figura di come si sa. Qui? Sì. Sembra una persona che ha già fatto il salto. Qui, vero? L'ombra di un angelo. Sì. Vedete, sembra quasi, no, che ognuno abbia il cosiddetto angelo custode che l'accompagna fino a e poi lo lascia andare. Una sorta di missione compiuta verso l'aldilà. Fa solo un riflesso di quei due che stanno entrando. Non lo sappiamo. Vi ripeto, vero? È piccolissimo, in prospettiva, per cui... Anzi, guardate che ci sono dei dettagli che noi riusciamo a cogliere, perché oggi possiamo usare gli zoom e ingrandire queste immagini. Lavorando direttamente sugli originali, alcuni dettagli non riusciamo a vederli con nitidezza simile. E anche qui, in internet, in varie situazioni, troverete mille letture, mille schemi. Posso dire, questo che è quello che imperversa, io non lo condivido per niente, è una forzatura abbastanza evidente. Possiamo invece, se ne mettessimo di nuovo uno sopra l'altro, vedere come, che so, sulla destra ci sia la rupe e ci sia anche il tunnel di luce, come vi sia in primo piano il diavolo con l'anima e qui l'angelo con i beati che vengono invitati ad alzarsi. Sì, ma anche se notate, no, questa diagonale ci sta, ma questa mica tanto, no? Cioè, ci sono delle cose che se uno vuole farle, le fa, tutto è possibile, ma il buon senso non è sempre così. Allora, se volete un consiglio per capire come funziona, uno si fa un'analisi di uno di questi pannelli con un foglio di acetato e poi lo sposta sulle altre tavole, allora si rende conto se funziona, ma questa proprio è una forzatura che non esiste. Così come mi funziona parzialmente questa, parzialmente, ma questa me la sono proprio voluta inventare, perché io qui ci posso leggere invece di più una serpentina, guardate, no? Allora la stessa serpentina io posso cercarla qui, speculare, posso ricostruirla qui, speculare, posso ricostruirla qui. Cioè ci sono degli elementi che a buon senso, soprattutto chi esce da un'accademia, dovrebbe riconoscere. Ma so di usare un periodo ipotetico, a volte dell'irrealtà. Dovreste poterlo fare, sarebbe bello. Per cui vi prego, non fermatevi e non fidatevi mai degli altri, dubitate sempre, soprattutto delle mie lezioni. Non fidatevi mai, cioè andate sempre a cercare la verità, ma attraverso anche i vostri strumenti. Non sempre quello che dico è corretto, a volte anch'io ho delle visioni, nel senso, cioè che avendo visto forse più cose di voi, involontariamente vado a forzare la mano e magari vedo cose là dove magari non ci sono, o viceversa, proprio perché ho visto tantissimo riesco a riconoscere degli elementi che mi spiazzano, no? La cosa che vi invito a fare sempre da allievi d'accademia è quello di chiedervi come è fatto, come è strutturato e soprattutto perché. Voi potete scegliere quello che dipingete, quello che scolpite, quello che disegnate? Quasi sempre, quasi. Cosa vi fa pensare che anche loro non potessero scegliere? Allora perché hanno scelto un modo anziché un altro? Perché hanno scelto un soggetto anziché un altro? Perché un colore anziché un altro? Perché mai niente, niente, fino alla Rivoluzione francese, è lasciato all'impulso. Tutto ha sempre un suo motivo d'essere, tutto ha sempre una fonte, quasi sempre letteraria. La meraviglia a volte, la soddisfazione sta nel riuscire a trovarla, perché non è così banale, non è così evidente. Anche perché 9 volte su 10 chi si occupa di arte sa poco di letteratura e viceversa. E invece bisognerebbe riuscire a conoscere bene entrambi i settori e mescolarli. Ma non è così semplice. E giusto per chiudere il corso in felicità, ci vediamo, un flash, flash, sulla salita al Calvario. Non preoccupatevi, qui non ci sono fiotti di sangue, non c'è niente, è il più sobrio tra quelli che ha realizzato. Bosch ne realizza ben 3, perlomeno tra le cose che noi, tra la letteratura che noi conosciamo. 3 salite al Calvario, la cosiddetta salita di Madrid, che probabilmente è anche la più giovane tra quelle che lui realizza, canonica, con il Cristo che cade, che però ci sta guardando, con tutta la schiera che gli sta dietro, e certo, vero, non Gerusalemme all'orizzonte, ma questa è Gand, cioè questa è l'Olanda. Questa è la salita al Calvario di cui vorrei parlassimo, che molto probabilmente è anche l'ultima opera che dipinge. È una tavola dipinta probabilmente tra il 1514 e il 1516, completamente satura. Cioè la tavola è esattamente quello che avete davanti. Non abbiamo paesaggi, non abbiamo vedute, non abbiamo orizzonti. È uno spazio completamente saturato da teste di vari personaggi, o se preferite da mezzi busti di vari personaggi. Sì, è proprio tagliata la scena? Così come la vedi. Strepitoso, no? 1515. Incredibilmente contemporaneo. È come se fosse una zoomata dentro ad una foto. Oh. Eccola qui. Che cosa vede la storia dell'arte in questa tavola? I rimandi, le citazioni. Un Piero della Francesca. Nella famosa narrazione della vera croce, siamo ad Arezzo, nel Duomo di Arezzo, 1466, E la cosa nuova che Piero della Francesca fa è quello di far vedere la costruzione della croce. Una croce che è un pezzo di legno gigantesco, una trave colossale che taglia in diagonale lo spazio dell'affresco. Questi sono degli uomini che stanno proprio costruendo la croce per la crocifissione. Cos'è l'elemento comune? Ditemelo voi. Poi? La trave diagonale. E dopo? Non vi sgrido, coraggio. Vedete qualcos'altro? Volti di profilo. Il Cristo, la posizione della testa. E qui non abbiamo il Cristo qui, eh? Attenzione, questi sono lavoranti, non è Cristo. Non è il Cristo. Vedete altri elementi comuni? Vorrei fotografarvi. Vedeste che facce terrorizzate che avete? Siete bellissimi. Non c'è nient'altro in comune, no? Ah, il sollievo. Qui abbiamo un orizzonte, abbiamo le nubi, abbiamo un cielo mediterraneo. Qui non abbiamo nulla, non c'è aria, non c'è proprio respiro, no? Mi sto divertendo troppo oggi, dici. Quindi non c'è. Per cui, vabbè, c'è una trave di tre quarti. Non è un po' poco per dire che uno cita l'altro? Forse. Vediamo qualcos'altro. Voi dite no, no. Lo so io, lo so. Guardate un po', l'altra citazione, questa è già più interessante. Dürer, 1506, Gesù fra i dottori, guardate un po', cosa abbiamo in comune? Allora dai, in ordine, il grottesco, poi il taglio se vogliamo, profili. Cioè, spazio saturo, nero dietro. Notate qualcos'altro? Una donna, una sola. Dove vedi una donna qua? Una donna qua in centro. No, era andato tutto così bene fino adesso. Dove una donna? È Gesù a 12 anni. Ah, certo. Tra i dottori. Tra i dottori. Beh, anche io prima posso Gesù con un costruttore delle parole. Ah, ce l'hai per tutti, volendo, ce dici, per no? Male. Vi aiuto. Un cartiglio sul cappello. Vi aiuto? Vi arrendete? C'è un'altra cosa. Tavolozza cromatica. Avete fatto passi da giganti dall'inizio del corso, voi non vi rendete conto, bravo. Vabbè, capita. Ricordatevi, 9 volte su 10, quando si fa una citazione, stiamo parlando di artisti del Rinascimento, lo si fa specularmente. Io ribalto la situazione se cito, non copio. Lo tengo come citazione, quindi lo rovescio, è come se fosse una sinopia, no? Un cartone rovesciato. Il più brutto di sinistra, il più brutto di Bosch, e il più brutto di Dürer. Stessa altezza, speculare. Dimmi. Prova. Un riferimento al gruppo della morte del fatto che contano l'intimità in Dürer. E può essere un riferimento anche. Certo. Certo. Anche qui la cosa interessante è che Dürer per arrivare a questo ha uno studio pazzesco, quasi un'ossessione per queste mani. Durer in generale studia le mani, ma qui in modo particolare, guardate un po'. Sono quasi tutti, beh, questo lo vediamo dopo, e ancora, sono quasi tutti legati. Allora, questo è proprio un disegno in virtù poi dell'olio. E questi sono una serie di altri disegni legati proprio allo studio delle mani. E ne ho presi solo quattro, sono quelli più vicini al lavoro proprio ad olio. Eccolo qui. La cosa interessante rispetto al trionfo della morte è che anche qui arriviamo massimo a 3, 1, 2, o meglio 2 e 3. Anche qui, vero, considerato che è un Gesù bambino, nascita, vita, e poi dovremmo arrivare a 4 allora, morte e resurrezione. Ci si ferma prima, e allora qualcuno parla della Trinità. La Trinità era già dogma di fede. Chi lo sa? È una delle cose alle quali io... Può essere quello che ci dicevamo per il trionfo della morte, no? Le tre virtù teologali, fede, speranza e carità. La fede nel pollice, la speranza nell'indice e la carità nel medio. Però non è una certezza. Certo è che se notate, proprio per come l'ha costruito, noi l'abbiamo al centro, no, dell'opera, questo elemento, no, come al solito, questo elemento così catalizzatore, perché se voi guardate l'opera, la cosa che proprio attrae, attira, è questo quadrifoglio, se volete, di mani, no? Questa girandola di mani centrale. È anche un elemento assolutamente desueto per essere il fulcro di una tavola, questa è proprio la parte centrale. Se noi andiamo a costruire le diagonali, ci rendiamo proprio conto che indice e pollice di Cristo fungono da elemento di taglio, e se andiamo a vederci anche l'altra diagonale che passa per il collo di questo Signore, andiamo sempre attraverso le nocche del Cristo, vedete, pollice, le nocche, le mani di questo ebreo, e scendiamo in diagonale. Le mani sembrano quasi la chiave di volta di tutto questo lavoro. Sembrano le più illuminate, a parte la cuffia del Signore in alto. La parte centrale sicuramente, no? Rispetto alle facce dei due signori a destra e a sinistra è più illuminata. E se notate sembra quasi che ci sia proprio un faro luminoso nella parte centrale, sottolineato anche, guardate, dall'ombreggiatura che c'è sul libro, per esempio, no? Gli altri personaggi in Durer. Un vecchio saggio che potrebbe ricordare uno proprio dei dottori, colui che disse: se questo bimbo dice sciocchezze le dirà qui e verranno dimenticate, se quello che dice invece è volere di Dio durerà per secoli e secoli a venire. Altri elementi, altri particolari. Questa testa che è strepitosa all'interno di questo dipinto. Un vecchio ebreo, come facciamo a dirlo? Cuffia gialla. Cuffia gialla. Verde. Abito verde. Capigliature. Capigliature, i boccoli, la barba lunga, arricciata, il cartiglio sulla fronte, però non è scritto in ebraico, è greco. O forse Durer non conosce l'ebraico. E tra l'altro, se noi lo ingrandiamo bene, è scritto speculare. Ma lo sapete meglio di me, no? Che era un esercizio quello di scrivere specularmente. Leonardo scrive speculare non perché è dislessico, ma scrive speculare per una questione d'esercizio. Se voi dovete copiare una bottiglia, e la copiate in questo modo, vedete la bottiglia che voi avete nella vostra memoria, non la bottiglia che state vedendo. Siamo nell'emisfero sinistro. Qualsiasi emisfero usiate, per vederla davvero dovete rovesciarla e disegnarla. Così andrete a copiare quello che avete davanti, non quello che ricordate voi. Lo so, è un'ossessione dei docenti di disegno, no? Il disegno dal vero è un'ossessione. Però è vero, è l'obiettività il ribaltare la situazione. E loro lo facevano proprio per esercizio. Andiamo a vedere anche altri particolari. Il libro. Anche per questo libro fa tutta una serie di studi e le mani sono importantissime. Fate attenzione, rivediamo l'originale. E non vi siete accorti che siamo tutti stati presi talmente tanto da questa girandola di mani da aver perso una serie di dettagli, guardate quali. Questo libro, per esempio, è la storia dell'opera. Perché? Questo è lo studio. Ma se notate, quando lo va a realizzare, beh, corregge un po', no, questa parte eccessivamente grassa del dorso di questa mano. Una mano che è più che grassa e deformata dall'artrite, no? Le mani artritiche hanno questa parte così gonfia. Ma il cartiglio che noi vediamo fuori uscire, che qui sembra una sorta di segnalibro, qui in realtà ci dà autore e data. È proprio il cartiglio, guardate, andiamo a vedere l'elemento ingrandito. Guardate un po'. Ma questo è guardare i fiamminghi, vero? Guardare quello che loro vogliono che vediamo e poi fare esattamente quello che loro non vogliono. Coprire l'elemento che ci attira di più e guardare tutto il resto, perché la storia del quadro sta in tutto il resto, non in ciò che mi attira. È una specie di indovinello rinascimentale, tardo medievale, se volete, no? Un calembour. L'abbiamo visto quante volte ormai. E ancora ci cascate, ancora ci cascate. Ci arriverete. Ovviamente abbiamo tre libri all'interno, vero? Uno chiuso, uno che viene menzionato a tre quarti, che abbiamo i due quarti del libro, no? Già sfogliato. D'altra parte questa è una discussione, una disputa tra dottori e quindi tra uomini di lettere. E poi, dove l'abbiamo lasciato? Eccolo qua. E poi questo che invece è aperto ad un quarto. È come se tutto lo scibile scritto fosse stato messo in discussione da un ragazzo che in mano non ha alcun libro, non ha necessità di avere il libro, perché è lui il libro. È su di lui che sono state scritte le sante, le sacre scritture, no? E naturalmente le scritture alle quali ci si rifà sono le scritture ebraiche, è l'Antico Testamento, perché lui è un ragazzino, i Vangeli non sono ancora stati scritti, arrivano dopo, raccontano la sua vita, per cui lui è il libro vivente, no? È una delle tante formule retoriche che vengono utilizzate per parlare del Cristo. E quindi è come se questo ragazzo, volutamente presentatoci come un bambino, poco più di un bambino, ha messo in discussione tutto lo scibile del sapere dell'epoca, l'intero libro, l'inizio del libro e la parte finale anche del libro, l'intera storia. Non a caso i libri sono tre, no? Il numero della perfezione rappresenta proprio l'intero scibile scritto e conosciuto. Contiamo. Quanti personaggi? Sei. uno è nascosto lì. Sette. No, quello è un naso. Allora facciamo meglio. Tre a sinistra, d'accordo? Tre a destra, più uno che fa sette. Ebraismo, cos'è il sette? Voi sareste i figli della società multietnica. Sette, il candelabro. I sette bracci del candelabro, no? Zero, eh? Un disastro, dici? Vabbè, pazienza. L'avete presente il candelabro ebraico? Sì. Sì o no? Sì. No. Vediamolo. Adesso per punizione subite i miei disegni. Della settimana, le tappe spirituali sono legate al numero 7, non a caso. Rappresenta i sette pilastri del sapere. Su questo numero 7, su questa forma, nasce il Tempio, il Sacro Tempio di Gerusalemme, la sinagoga, certo non strutturata in questo modo. Ognuno di questi bracci, così si chiamano le uscite però dei candelabri, non braccia, bracci, ha un nome specifico legato proprio alla cultura ebraica. Gli stessi nomi vengono dati ai pilastri principali della sinagoga, che saranno poi l'origine anche della chiesa. E sono proprio i sette pilastri, tre colonne laterali, più, diciamo, idealmente quella che regge l'abside. Ma è andata bene una volta, la seconda no. Struttura rettangolare. Abside. Abside. Pilastri. Uno, due, tre. Siamo. I nomi di ognuno di questi bracci corrispondono ai nomi dei pilastri del tempio. L'apice che rappresenta Yahweh, che rappresenta Dio, corrisponde alla parte del Sancta Sanctorum, per cui ciò che regge l'abside stessa, nel mondo ebraico, non in quello cattolico. Poi però la Chiesa romanica in alcune situazioni manterrà lo stesso schema. E tra l'altro ci sono, qui ci consigliamo la verità, delle proporzioni numeriche tra questi spazi legati proprio al sapere e alla saggezza della Kabbalah. Per cui la cave è un quadrato, sì, ma anche lì lei ha tutti i punti, no? Con, infatti gli spazi che si creano tra i pilastri sono tutti quadrati. Ma io non ho capito però una cosa, però perché è collegato con il 7? Cioè perché ha fatto sette personaggi? Perché, perché sono tutti ebrei. Ah, sono tutti ebrei. E per forza. Già. Mica possono essere cristiani. Cristo ha 12 anni, predica tra i dottori, sono i dottori del Tempio, tra l'altro, vero? Sono i detentori del sapere, della scrittura, della Cabala. Per cui non è per caso. E poi guardate che, purtroppo, no? Noi abbiamo avuto la sventura della Seconda Guerra Mondiale. e quindi all'enorme e terribile persecuzione nei confronti degli ebrei. Ma soprattutto nel mondo rinascimentale, gli ebrei sono da una parte reietti della società, no? Tenuti proprio al palo, tenuti lontani, accusati tutta una serie di cose assolutamente inventate. Ma dall'altra, proprio perché vissuti in modo così negativo, ben conosciuti. Michelangelo, per esempio, ha una conoscenza della letteratura ebraica pari a quella che poteva avere un rabbino dell'epoca. E Dürer probabilmente conosce il mondo ebraico tanto quanto Michelangelo, ovviamente con una lettura diversa, essendo figlio delle Fiandre. Ma il nemico, e questo ripeto, la tattica che già i romani adottavano, il nemico per essere tenuto lontano va conosciuto. Il nemico per essere sconfitto va conosciuto da dentro. Io non posso vincere un nemico che non conosco. Sono un arrogante, sono un occidentale se penso questo. È tutto per tutto. Ecco, di conseguenza niente è casuale in opere come questa, no? Il numero dei personaggi, la posizione, il Cristo centrale, il modo di distrarmi attraverso questo quadrifoglio, il numero 4, i libri che sono 3, l'apertura dei libri. Cioè alla fine è molto più interessante il dettaglio del quadro stesso, perché è più accattivante, no? È il sale del quadro qui, il dettaglio. Ed è niente rispetto a Bosch. Cosa fa Bosch? E poi vi libero. C'è un nome per descrivere questo Bosch. Cosa? Quale cosa dici? Perché non capisco. Come c'è un nome per capire. Il titolo dei quadri vuoi sapere? Allora, questo che abbiamo appena visto è Cristo fra i dottori, 1506. L'altro, invece, questo, che adesso andiamo a ripescare, eccolo qui, tra il 1514 e 1516, la salita al Calvario, si intitola così, salita al Calvario di Gand, perché ne esistono 3 versioni, vi dicevo, no? La salita al Calvario di Madrid, che è questa. E tra l'altro la salita al Calvario, e quest'altra invece che stiamo analizzando, che è la salita al Calvario conservata a Gand. Questo per il numero 7 dei personaggi dentro alla tavola di Dürer. Perché 7? Perché il nome dei bracci del candelabro, di questo, sono gli stessi che vengono dati ai pilastri poi della sinagoga e della chiesa ebraica, quindi. C'è un nome per descrivere queste cose, perché un po' di... No. No, c'è un nome per descrivere? Ma forse vuole sapere, quello è un candelabro, quello è una piantina. Si chiama in un modo che però non... Non mi ricordo il nome ebraico del candelabro. Non credo voglia sapere il nome ebraico. Ne dubito. Sì, ma io non me lo... Voi ve lo ricordate? Può darsi? Potrebbe essere una cosa simile, vero? Non me lo ricordo. Candelabro ebraico. Sì. Lo so, devo studiare di più la parte ebraica. Ma forse facciamo prima farglielo vedere, cioè che quello era il simbolo del candelabro, ma era, non è veramente un candelabro. Questa è la sinagoga. Secondo me vuole sapere cosa è quello. Particolari. cosa vedete? Siamo da capo con la tortura. Allora, croce in diagonale, personaggi di profilo. Abbiamo parlato di struttura. Enorme passo in avanti, eh? 3 mesi fa mi avreste parlato solo delle bocche, dei denti, il quadro non l'avreste proprio visto. Adesso entriamo a vedere dentro il quadro. Cosa abbiamo dentro al quadro? Non so se il cappello, questo cappello a punta di cui nessuno sa dare spiegazione, eh? È comunque un cappello medio orientale, a punta, ricorda proprio, no? Il copricapo, tipo dei maghi. Cos'altro? C'è un soldato, direi, non so, io non vedo bene, però mi sembra che abbia un'armatura in testa. Questo? Sì. Abbiamo un uomo quindi con un elmo. Quello che è strano è l'uomo lì in fondo. Questo? Qui. No, dall'altro lato. Questo? Mm. Guardate no, bene? Non si vede? Certo. Ecco. E quindi questa è una Veronica. Ah. Mm-hmm. Abbiamo la Veronica con in mano il mantillon, cioè il fazzoletto di lino che viene utilizzato per asciugare il sudore del Cristo mentre portava la croce, no? E la leggenda vuole che si imprimesse l'immagine del Cristo quasi a fuoco in questo fazzoletto, che non è la sindone, perché la sindone copre l'intero corpo. Questo invece è proprio un fazzoletto che asciuga solo il volto, proprio durante la salita al Calvario. Cos'altro vedete? Quello col cappello rosso sembra un giornale. Sembra un... Questo? Quello in alto. Guardate, abbiamo anche un francescano, vi aiuto. Un francescano con tanto di cappuccio, la chierica, sdentato, bruttissimo, che sta rimproverando uno dei ladroni. La salita al Calvario è di 3 persone, non solo del Cristo. Il ladrone che poi si pente, il ladrone che non si pente. Ah, sono vestiti uguali. Uno, 2, 3. Abbiamo già la posizione che poi avremo sul Calvario. No, il Cristo al centro, ladrone cattivo, ladrone buono. Se notate, ad accompagnarlo al Calvario, oltre a questo soldato e a quest'altro che sta in un certo senso, no, tenendo quasi in asse la croce, e sono soldati rinascimentali, non ebraici, vero? Non dell'epoca contemporanea a Cristo, non sono corazze romane queste, sono corazze quattrocentesche. Tutti gli abiti sono contemporanei a Bosch. Quei personaggi in alto, i vari personaggi, se guardate, sono proprio una masnada, cioè un gruppo di brutte persone, loschi figuri. La bruttezza d'animo si rispecchia nelle fattezze del corpo, no? Uno cattivo è anche brutto. Questo rientra nel concetto rinascimentale dell'idea, più che nell'idea medievale, dove invece bellezza e bruttezza stanno nelle dimensioni. Tanto più un'anima è bella, tanto più è grande. Tanto più un'anima è lontana da Dio, tanto più è piccola. Nell'accezione di bellezza classica del Rinascimento, invece, il bello è anche buono. Ritorna l'idea del kalos kai agathos del mondo greco, no? Bello e buono, la perfezione. Il paladino, il giusto, il condottiero che per forza deve essere meravigliosamente giovane e bello. Se no non è saggio, se no non è capace. Ovviamente questo nei quadri, poi nella realtà abbiamo visto le cose essere assolutamente diverse. Fortuna nostra. Io qui noterei anche un altro elemento. Allora, sono brutti, per forza, sono coloro che hanno imposto a Cristo il Calvario, no? Per cui sono i dannati. Come spesso fa Bosch, non sono solo ebrei, sono anche turchi, sono anche musulmani, siamo nelle Fiandre, no? Quindi questo tipo di copricapo, incredibilmente policromo, ricorda proprio un arcobaleno, sembra quasi un'iridescenza. È un cappello medio orientale, di credo sicuramente musulmano. Un altro elemento interessante è che tutti, o quasi tutti, hanno gli occhi aperti o socchiusi, tranne i due personaggi. Il Cristo, che è esattamente il centro, e la Veronica. I due buoni della situazione hanno gli occhi chiusi, come se non volessero vedere la realtà, come se cercassero un mondo interiore, non volessero assolutamente vedere lo scempio che hanno di fronte. Se noi andiamo a costruire le diagonali poi, ci rendiamo conto, guardate un po', che questi occhi e il suo naso sono proprio l'incrocio dell'intera tavola, sono il fulcro prospettico della tavola. Per la prima volta con Bosch siamo perfettamente in asse, no? Non lo siamo stati mai fino adesso, in tutto quello che abbiamo visto. E l'invito a questo incrocio, a questa X, ci viene proprio dalla croce. La croce noi neanche la vediamo, noi abbiamo solo un asse. La croce è un supplizio talmente grande da essere fuori dal quadro, fuori dalla tavola. È colossale, perché se voi pensate, lui ne sta portando una parte e quindi la croce fuoriesce ed è gigantesca, molto più grande rispetto alle dimensioni del Cristo stesso, no? Un supplizio che nessun uomo può vivere, un supplizio che mi fa quasi da freccia per andare a cercare il vero protagonista di tutto questo gruppo enorme di personaggi. Una croce che, se io vado a ingigantire, a cercare, si sta quasi assorbendo, mangiando i raggi di un'aureola che è accennata, grazie proprio, guardate, a tre raggi. Una croce fatta da tre raggi di luce trinitari, quindi, no? 3, 3, 3. Idealmente noi potremmo chiuderla e avremmo proprio un'aureola. Capite che se l'avesse dipinta ci saremmo mangiati il piacere, ci saremmo persi il piacere di andare a cercarlo e ci saremmo ritrovati con una patacca gialla al centro dell'opera, quando il giallo in realtà è dosato con grande calibro, grande attenzione e ripartito in tre punti differenti dell'opera. In questo gruppo basso, scusami, questo profilo che ricorda un po' un rospo, e la parte della nuca, dei capelli della Veronica. Ma è normale che tutto il peso sia concentrato, come se dovesse controbilanciare il peso della croce, che non vediamo. Certo. E quindi abbiamo qui una sorta di vuoto dovuto ad una corazza nera e la parte principale, no, incuneata come se fosse una grande freccia verso il basso a destra. Ci fa capire proprio che è lunga, che va oltre. E ti permette di controbilanciare e poi di metterla in asse anche, no? Possiamo sapere anche noi? Ce lo raccontate forte? Non riesco a vedere i tre raggi. Non riesci a vederli? No, non si vede niente. Proprio qui sotto, vedete? 1, 2, 3, e sopra 1, 2, 3, e questi sono proprio dentro la venatura del legno. Lo stesso colore non si vede. Si fa fatica. Qua. Grazie. Prego. Sì. Eccoli qua. Bosch ha fatto autovitturato? No. No, mai. Non che noi sappiamo. anche se secondo me, ma è un'idea mia, potrebbe essere questo. Sapete perché? Non solo perché guarda noi, perché anche il Cristo ci guarda, ma è un'idea mia questa, potrebbe essere una stupidaggine totale. Perché in questa stessa posizione moltissimi artisti del Rinascimento si ritraggono. Piero della Francesca, Botticelli, a destra sempre, al limitare dell'opera, Mantegna. Abbiamo una serie di opere che parlano soprattutto della vita del Cristo. Non so, Botticelli si ritrae davanti ad una natività. Abbiamo il presepe alto, Botticelli è tra i vari pastori e si volta a guardarci. Quello è un autoritratto, ne siamo certi. La posizione potrebbe essere proprio quella corretta, ma non è assolutamente dimostrabile, è un'idea. Scusi, anche la posizione della mano sembra di qualcuno che stia dipingendo. O che stia prendendo appunti. O che stia prendendo appunti. E anche il volgere del viso verso una qualcosa di riflettente potrebbe. Potrebbe. Ma guardate che è un'idea che mi è proprio venuta costruendo il corso, mettendo insieme le cose, quello potrebbe essere il suo autoritratto. Molto segnati alcuni, e quello del Cristo invece sembra proprio privo completamente di rughe, di segni, di cicatrici. Anche di volume, forse. Forse di volume no. Quello direi di no. Vediamo alcuni particolari, così magari riusciamo a vederlo meglio. Guardate. Queste facce ingrugnite, terribili. Ah, le bocche aperte, i denti a vista. Guardate che ci richiamano fortemente al mito di Medusa, vero? Per cui è qualcosa di demoniaco, di diabolico. Denti a vista, bocca aperta, occhio sbarrato. In origine proprio parte dal mito di Medusa, che poi passerà a quello che è proprio l'emblema satanico, il diavolo con la bocca aperta e la lingua di fuori, gli sberleffi dei gargoyle, pensate, no, a Notre Dame. E molti di loro hanno la bocca aperta, non tutti, ma molti. E sono sdentati perché rientra proprio nel vezzo del brutto. La Veronica invece no. È sorridente, gli occhi volutamente chiusi e diciamo quasi un profilo, no, gentile rispetto a tutta questa, mettetela proprio in comparazione con chi ha alle spalle. Ha quasi un arcobaleno nel velo che copre i capelli, un blu, un rosso, il bianco, il giallo. Il Cristo è dipinto come lei, c'è un volto poco segnato, quasi luminoso, con una luce che entra che esce dall'interno, no? Con questa ombreggiatura che ricorda un uomo che non si fa la barba da qualche giorno, o al quale è stata strappata la barba anche, no? Perché rientra nelle torture appunto del Calvario. Ma se notate, guardano le loro teste in direzioni opposte. Lei guarda al passato, lui guarda al futuro, no? Lei guarda indietro al ricordo di ciò che lui è stato, lui invece guarda avanti perché lui sa che ad attenderlo poi ci sarà la resurrezione, secondo appunto la scrittura evangelica. Qui l'aureola si vede meglio, vedete? Mm-hmm. Sì. Questa è una lacrima. E anche questa. E chiudiamo vedendo la salita al Calvario che volevo farvi vedere la settimana scorsa, che vi ho raccontato a memoria. Eccola qui, vedete? Con questa roccia centrale, con questo bizzarro mulino a vento nella parte superiore e tutta questa serie di personaggi che sembrano correre intorno, in tondo proprio. E hanno tutti una gran fretta. C'è un tale caos che noi non riusciamo a riconoscere a colpo d'occhio il Cristo che si sta muovendo in tutta questa ressa e folla di gente. E lo troviamo qua, in asse perfettamente al centro, guardate, della tavola, proprio al centro. Qui. È un Cristo caduto sotto la croce, che stanno aiutando a risollevarsi e che segue gli altri condannati. È come se si stesse facendo una specie di giro e si lasciassero nei vari punti di tortura i condannati a seconda della pena che gli è stata inflitta. Perché dico questo? Perché noi abbiamo una gogna. Questa è una ruota dove venivano proprio appesi e lasciati mangiare i corvi. A volte anche i cadaveri degli impiccati venivano posizionati qui sopra, proprio come monito, e lasciati marcire proprio lì sopra. E ne abbiamo un'infilata, perché anche queste sono gogne. Abbiamo una forca, e qui dove tutti si stanno accalcando è il Calvario, cioè Cristo deve arrivare fino a qui, a piantare la propria croce. Ed è ancora un cerchio, no? Quest'idea che dicevamo del correre in tondo, che è la base di tutta una serie di elementi, sia positivi che negativi. Ancora una volta vi ripeto, la Divina Commedia ne è proprio la rappresentazione. L'imbuto che scende sempre ad anelli concentrici, i vari livelli della montagna del Purgatorio, i cieli del paradiso sono sempre cerchi concentrici. E vi ripeto ancora una volta, non è un'idea di Dante. Dante lo prende dal Libro della Scala, che è un libro musulmano che procede sempre per cerchi concentrici attraverso una scala, appunto, che sale di livello verso il paradiso. Lo prende dalle visioni di Tandalo e lo prende proprio da quest'idea che il dannato corra in tondo senza risolvere, senza possibilità di sosta, perché se io corro in tondo non mi posso fermare. Ma non è strano il fatto che l'abbia rappresentato Cristo con la croce? Sì, è in centro, però così piccolo rispetto a tutta la scena, cioè non è strano. Sì, però è molto fiammingo, cioè io devo andare a trovarlo, no? Io devo andare a cercarlo. La cosa che a me colpisce di più è vedere quanto Maria e le pie donne siano lontane dal Calvario. Le abbiamo proprio in pole position. Maria, Giovanni che l'assiste e le pie donne, e che, come dicevamo, no, la settimana scorsa, a guardare tutta la situazione quasi al centro, seduto di spalle, sia un matto, no? Sia un giullare. Ma tra l'altro potrebbero anche, cioè lei ha detto che sono lontane dal Calvario, però se fosse un prima e un dopo potrebbe semplicemente essere che sono sul Calvario, ma potrebbe, no? Oh certo, quindi, certo. Non sarebbe così strano. No, assolutamente. E così non dovrebbe nemmeno essere una stranezza tutta la quantità di personaggi all'interno di questa tavola, vero? Perché poi Bruegel sarà proprio famoso per darci centinaia di situazioni simultaneamente. I giochi dei bambini sono 100 giochi che ci vengono presentati in micro personaggi che si muovono su una tavola più o meno di queste dimensioni, per cui siamo su tavole di 1,5 m per 1,20 m, 1,80 m per 1,5 m. Però se notate, no, per certi aspetti, qui siamo già quasi 200 anni avanti. Sembra, se noi tagliamo questa parte, sembra già 700, no? Le vedute settecentesche, di poesia, di fantasia. Certo è che qui ancora c'è tantissimo di quella che è la letteratura medievale e abbiamo già tutta una serie di elementi invece del gotico internazionale. Guardate lei com'è vestita, sembra uscita proprio da una tavola del Pisanello. E una serie invece di elementi che già ci parlano di Rinascimento, fiorentino anche, no? E tutti questi gentiluomini che si spostano a cavallo in una situazione quasi idilliaca, se non sapessimo che questa, e ce lo dice il titolo, per cui il titolo inizia ad essere anche indispensabile per raccapezzarci dentro all'opera, se il titolo stesso non ci dicesse che questa è una salita al Calvario. E siamo 50 anni dopo la salita al Calvario di Bosch, che abbiamo appena visto, la salita al Calvario di Gand. Io ho terminato. Io spero che questo corso non vi abbia proprio uccisi completamente, vi abbia solo tramortiti un po'. Ho anche 1000 domande. No, perché ci chiedevamo se si sa qualcosa, cioè, del fatto che sia matto a guardare, no? No, quindi non è una cosa presa, cioè, perché è matto che sta a guardare? Perché forse noi siamo il matto, no? Chi procede seguendo dei canoni che canoni non sono. Loro hanno comunque, come tutti coloro che creano un'opera essendo già famosi, consapevolezza che l'opera continuerà a vivere dopo la loro morte e che quindi a guardare l'opera saranno persone che appartengono a tempi differenti e quindi imprevedibili, non conoscibili. Forse, ma questa è una mia lettura, non certo una sua lettura. No, erano sacri praticamente, no? Non andavano toccati, erano preziosi, potevano dire tutto quello che pensavano senza essere puniti. Quindi a volte era meglio essere matti che normali, perché da normali rischiavi di essere messo a rogo, un matto non sarebbe mai stato bruciato. Questo assolutamente. L'unica che sembra non far parte del quadro, in effetti, è proprio la Madonna e Giovanni che la sorregge, che guardano verso di noi, che sono in primo piano. E noi siamo dentro il quadro e loro sono forse fuori da questo. E questa sensazione, se notate, perché qui la prospettiva non viene rispettata, perlomeno è una prospettiva per piani giustapposti, no? Abbiamo una sovrapposizione, non abbiamo il cannocchiale. O meglio, abbiamo una sovrapposizione su un cannocchiale prospettico e quindi ci disorienta ancora di più. Scusi, quell'elemento a destra, in basso, sulla roccia, ecco quello. Questo è un bucranio, è il teschio, sì, è un teschio di un cavallo. Per cui, no, l'idea della caducità che già abbiamo visto tante volte, eccolo qua. È la marciscenza e guardate, non a caso, che a molti di questi elementi guarderà il surrealismo spagnolo. Salvador Dalí, per esempio, no? L'idea dell'asino che marcisce sulla spiaggia, l'idea della putrefazione, la costruzione per piani. Dalí ha ben chiaro Bosch, l'ha studiato, ce ne parla ed è in un certo senso anche il punto di partenza per quella che è la letteratura visionaria del surrealismo spagnolo. Non a caso la maggior parte delle opere che abbiamo visto appunto sono conservate al Prado di Madrid, perché la corte reale di Spagna, proprio per l'amore, per il macabro che avrà il barocco spagnolo, o se preferite il tardo rinascimento spagnolo, li porterà ad amare molto opere come queste e a collezionarle, sarà proprio la corona stessa a pagarle, ad acquistarle, quasi in contemporanea alla stesura di queste tavole, con uno scarto di 20-25 anni a volte, proprio sulla realizzazione. Per cui nell'immaginario spagnolo, di uno spagnolo doc come Salvador Dalí, come sarà Pablo Picasso, come sarà Juan Miró, le opere che appartengono alla corte di Spagna sono la Spagna e quindi ne hanno buona conoscenza e le utilizzeranno, così come utilizzeranno buona parte del Rinascimento italiano, per quella che sarà la cosiddetta memoria della dimenticanza. Cioè io ho talmente digerito uno stile, un'epoca artistica da farla mia e da poterla citare come quando voglio, decontestualizzandola, perché comunque è mia, mi appartiene, anche se non l'ho dipinta io, non l'ho inventata io. Rientra nel mio DNA artistico e quindi posso avvalermene all'interno delle mie opere. Ecco per esempio la comparsa di Mantegna, ecco la comparsa di questi scheletri d'asino nel caso suo, di cavallo, di ossa, di citazioni archeologiche e quant'altro. Venite sereni all'esame. Chi non ha mai fatto esami con me lo sappia. Allora, una serie di cose. All'improvviso siete tutti interessati, io dico esame. Primo, è stato un corso complicato. Io lo so. L'ho costruito, so che non è stato un corso semplice, per cui è ovvio che io ne terrò conto. L'anno scorso abbiamo affrontato un corso colossale con quasi un centinaio di artisti tra una cosa e un'altra e ho tenuto conto di quello. Quest'anno io devo tener conto che abbiamo affrontato meno artisti, tanti comunque, ma continuando a spostarci da una scuola all'altra, dall'Italia alle Fiandre, dal sud, nord, centro dell'Italia alle Fiandre, con tutti i contorni delle Fiandre. I libri che dovete studiare vi raccontano quello che io non ho detto, per cui gli appunti delle lezioni, non perché sono egocentrica, ma perché proprio nei libri non ci sono, sono importanti per superare bene l'esame. Terza cosa, è un esame di biennio. Io vorrei, come dicevo prima, che voi arrivaste a fare questo esame non per avere il voto sul libretto, perché non vi serve proprio a niente, se non per i crediti, le borse di studio, eccetera. Ma a voi, se arrivate solo per quello, non serve a nulla. Io vorrei che voi nel tempo, perché questa è una cosa che non si impara in un corso, cercaste di capire come è stato costruito questo corso e vi chiedeste il perché delle cose. Allora poi vi potrà tornare utile, perché non sarà un corso, ma sarà un modo di leggere le opere che vi servirà a prescindere dall'epoca storica che andrete ad affrontare, sempre e comunque. Altra cosa. Ho più rughe di voi. E dopo una certa età, a rughe, come già dico, ho già detto altre volte, a numero di rughe corrisponde numero di pagine lette. Io non posso pretendere che voi arriviate e facciate un esame come se l'aveste fatto voi il corso, se l'aveste costruito voi il corso. Sarà una conversazione sul corso, ma io non posso dimenticarmi che abbiamo 20 anni, 30 anni di libri che ci dividono. Sarebbe veramente stupido, non avrebbe senso. Altra cosa, con me l'esame è una conversazione. Io non devo dimostrare niente a nessuno, né a voi, l'ho già fatto durante il corso, né a chi mi affianca durante gli esami. Voi venite e sostenete una conversazione con me, punto. Se so o non so, è un problema mio con me, non mio con voi o mio con i colleghi. E non è certo attraverso un vostro esame che passa il mio sapere, non c'entra niente. Quindi venite sereni all'esame. Io lo so che è un controsenso, agli esami non si arriva mai sereni. ma non urlo, non lancio libretti. Se va male vi invito a ritornare a sostenere l'esame e quando vi incontro per strada, il voto che avete preso o che non siete riusciti a prendere non c'entra niente, sia chiaro. A me non interessa. Il rapporto tra persone e il rapporto tra docente e studente sono due cose diverse. Non ci credete? Eppure funziona così, perlomeno in quest'aula, sempre. Quindi venite a fare l'esame con questo spirito, per favore. Venite quando siete pronti. Se decidete di sostenere questo esame l'anno prossimo, per mille motivi vostri, a me non cambia nulla. Non è che finito l'anno accademico decade il corso e dovete ricominciare da capo, vi prego, vero? Non è necessario. Quando vi ritenete pronti, venite a sostenere l'esame. Non vi sentite pronti mai? È questo grave? Allora mi incazzo e vengo a prendervi e vi faccio fare l'esame. Faccio anche quello, eh? Ogni tanto qualcuno vado a prendermelo e dico, oh, questo esame, lo dai o non lo dai? Quindi venite così a fare gli esami. Trascorrete una buona estate, riposatevi, vedete di non arrivare eccessivamente abbronzati, che già l'umiliazione l'ho subita, a corso ancora in atto, e studiate per il piacere di farlo, vi prego. È l'unica cosa che conta all'interno di una scuola, non i voti che prendete e non i finti traguardi. I traguardi veri sono quelli che voi raggiungete con voi attraverso il sapere, che non è dimostrare a me che avete letto i libri, è proprio tutta un'altra cosa. Basta, perché sto diventando mia nonna. Andate via, buona estate a tutti. Grazie particolarmente da me.